You are listening to Radio Yoga Network, Italian radio that broadcasts in Italian on www.letteralmente.info. Our email address is radioyoganetwork@gmail.com. Il ritorno di Bodhitaro su Letteralmente Radio Yoga Network. Una volta al mese avremo, un mese sì, un mese no, una trasmissione nuova di Bodhitaro, quindi realizzata dopo il 2020. E un mese sì, un mese no, una trasmissione vecchia, andremo a riascoltare insieme una delle sue vecchie trasmissioni. In ogni caso, tutti i mesi, d'ora in poi, di nuovo su Letteralmente Radio Yoga Network, il ritorno di Bodhitaro, trasmissioni vecchie e nuove a cura del nostro carissimo contadino Zen, come lo chiamo io. Buon ascolto, Letteralmente Radio Yoga Network, nostro indirizzo di posta elettronica, radioyoganetwork@gmail.com. Letteralmente Radio by Yoga Network, www.letteralmente.info, la radio con tante radio dentro. Maurizio DJ, Studio 0 Ferrara, Renzo, Studio 1 Bologna, Fabio, Studio 2 Enna, Cristina, Studio 3 Firenze, Mauro Bodhitaru, Studio 4 Sanremo, Bastian Contrario, Eli The Worst e Gabriele, Studio 5 Montebaldo. Letteralmente Radio by Yoga Network, la radio con tante radio dentro. Scrivici radioyoganetwork@gmail.com. Bene, un buon ascolto da parte di Mauro e da Letteralmente Radio. È da un po' di tempo che non ci ascoltavamo. In podcast tutto questo non ha nessun significato, perché semplicemente chi vuole andare a prendere un podcast o comunque a prendere una registrazione, che una volta erano le cassettine che si facevano le registrazioni, poi non se le metteva da parte, poi ogni tanto andava a prendere la cassettina, la metteva nel registratore solo per ascoltarla e via. Poi la cassettina si magnetizzava, si buttava via. Adesso sì, il rischio è ancora peggiore, perché se il file viene ad essere cancellato e non c'è un qualche modo per poterlo sistemare, sicuramente tutto questo viene fuori, che non si riesce più ad avere il messaggio principale, mentre invece con le vecchie cassettine sì, si distruggeva qualcosa, ma se proprio uno voleva il nastro si riusciva fisicamente ancora a rattoppare, anche se magari si ascoltava in modo non proprio preciso. Tutto questo discorso perché questa volta parleremo di qualche cosa che ha a che fare con il passato remoto, un passato remoto in questo caso degli Stati Uniti. Adesso voglio fare un esperimento, vorrei provare a senza dover andare con troppi file, a prendere il file dei commercial, cioè praticamente delle pubblicità degli Stati Uniti riguardo prodotti magari anche famosi o non famosi di quel momento, il modo in cui venivano ad essere portati all'ascolto delle persone. Dobbiamo pensare che in alcuni casi, negli anni 50, si parlava della prima televisione, tutti erano schierati davanti all'unica televisione, magari in cucina o in sala, nel salotto buono, e quindi era una specie di... tutti erano molto attenti perché era una novità assoluta poter avere una cosa di questo genere, cioè dalla vecchia radio di una volta alla televisione con le immagini in movimento. Diciamo che le persone erano veramente rapite da tutto questo, e i pubblicitari, comunque le persone che volevano fare commercio, quindi con la televisione, che era un grande mezzo, un nuovo grande mezzo per poter fare business, naturalmente ne approfittavano con dei video, con delle musiche cattivanti, con delle pubblicità abbastanza di solito molto menzognere. Proviamo ad ascoltare questa, quella di Marlboro. Bene, eravate così all'interno di questo spot pubblicitario, che forse magari qualcuno ancora ricorda. Lì naturalmente abbiamo ascoltato soltanto la musica, questo leggendario West in cui le persone, arrivava il cavaliere con alla fine la sua sigaretta, naturalmente è una pubblicità che adesso sarebbe completamente proibita. E dobbiamo pensare che ci sono delle pubblicità su cose che tanti anni fa, molti anni fa, erano considerate quasi un qualcosa di positivo. Anche la sigaretta viene a essere utilizzata come nel mondo pubblicitario, con dei medici abbastanza compiacenti per rilassare le persone, per dare un contegno, per fare diciamo società, e nello stesso momento non dava, secondo loro, non dava nessun tipo di problema di salute. Se ne sono accorte poi dopo le grandi multinazionali, con tutti i milioni di dollari che hanno dovuto dare e che probabilmente continuano ancora a dare, in appunto per cause legali legate appunto al problema del fumo. E adesso invece passiamo un'altra pubblicità molto simpatica. Qui ci sono dei bambini che si mettono a cantare una piccola melodia ispirata però a una cosa che c'è, che esiste, forse esistita e forse esiste ancora, un digestivo, le classiche pastiglie che si mettono dentro l'acqua, fanno pluff e dopo si possono, passa tutto, passa il mal di stomaco e quindi si sta bene, quindi ascoltiamo pure questa registrazione. You worked too hard, you ate too much, the cheesecake made you greedy, let your aching head and stomach hear this message from old Speedy. Alka-Seltzer, plop, plop, fizz, fizz, oh, what a relief it is. Plop, plop, fizz, fizz, oh, what a relief it is. Ah, those Speedy Alka-Seltzer bubbles burst into action to relieve your upset stomach and aching head fast. It was only as directed. Oh, what a relief it is. What a relief. E dopo tutto ciò, sempre in questi spot pubblicitari dagli anni 30, 40, 50 degli Stati Uniti, un grande marchio che poi ha conglobato diverse altre società, comunque che hanno a che fare nel campo alimentare, la Nestlé, una Nestlé con un accattivante emotivetto un po' così che sembra quasi di un pianoforte di quelli a manovella che si usavano proprio nell'Ottocento, e con tutta una serie di prodotti, dal famoso latte condensato al cioccolato che appunto era una delle parti di questo della Nestlé, e via via tutte le varie cose. Naturalmente tutto questo con i soliti motivetti un po' accattivanti, un po' che dovevano per forza di cose avere un seguito, poi finito lo spot con magari il bambino che si metteva a canticchiarlo, il papà che lo fischiettava, e naturalmente come una specie di pubblicità subliminale, poi alla fine ritornando di nuovo questo schermo televisivo oppure su quello che riguarda la radio eccetera eccetera, ritornando con questi prodotti, il martellamento era continuo. E poi alla fine chissà come mai uno andava in una drogheria, in un piccolo centro commerciale, in un negozietto sotto casa, e si ritrovava proprio quel prodotto lì, e automaticamente con la musichetta che magari in quel momento la stava ancora canticchiando dice: ma sì, prendiamo anche questo. E poi la base del commercio vero e proprio, una delle basi fondamentali del capitalismo, o perlomeno di quello che si intende in questo modo. E niente, ascoltiamolo. If you're swinging, if you're boating, if you're pitching, if you're floating, you need Nestle's Quicken Milk this summer. If you're training, racing, try the drink that's really bracing. It's Nestle's Quicken Milk this summer. Delicious chocolatey Quick makes the most wonderful energy drink. Gives you all the health of milk plus Quick's own vitamins and iron. Never sticky sweet, so it really quenches thirst. Get cool, get a great chocolatey treat, and get lots of energy builders. Take a tip from all us bright kids. It's the drink that's really right, kids. Ask for Nestle's Quicken Milk this summer. Oh. N-E-S-T-L-E-S, Nestle's makes the very best chocolate. down her room, there was room enough to breathe and remember you. I was there tonight when I saw heaven's light shine, and even now it shines bright and true. E vogliamo forse non parlare di una delle bevande più famose, non la Coca-Cola, ma la Pepsi-Cola. Quindi anche uno spot pubblicitario, sempre con gli stessi motivetti un po' accattivanti, che dovevano per forza di cose essere ricordati dalla maggior parte delle persone. E, in una vecchia registrazione, qua stiamo parlando di radio, non più di televisione, e quindi anche ecco a voi la Pepsi Cola Made in USA. Pepsi Cola, it's as fast as 12 ounces, that's a lot, twice as much for a nickel too. Pepsi Cola is a drink for you. Nickel, nickel, nickel, nickel, nickel, nickel, nickel, nickel, nickel, nickel, nickel, nickel, nickel, nickel, nickel, nickel. State ascoltando Letteralmente Radio by Yoga Network, www.letteralmente.info. Scrivici Radio Yoga Network @gmail.com. E come ultimo spot pubblicitario, quello di una macchina che negli Stati Uniti della fine anni 50 era uno dei must, e oltretutto erano diversi modelli, il modello familiare, il modello coupé, il modello un po' più per persone che avevano voglia di spendere, la famosa Chevrolet. Andate a vedere cos'è una Chevrolet del 1957, con quella linea un po' molto particolare, con quelle col retro che sembra che abbiano due pinne, e una forma estremamente allungata sul davanti, e dei fanali che con la carrozzeria sporge quasi in avanti e rimangono quasi all'interno come fossero degli occhi, con dei colori veramente improbabili, dei rosa shocking, dei colori che piacciono veramente soltanto agli americani. E quindi anche lì ci voleva un imbonitore, oltre agli imbonitori che naturalmente esistevano quando uno doveva andare in un salone di macchine, c'erano le famose pubblicità, che anche queste ancoravano la gente a andare a vedere il modello, perché la televisione oppure la radio l'aveva sistemata in una maniera talmente bella che tutti volevano poi questa macchina. Poi naturalmente non ne parliamo poi dal punto di vista dei film che hanno avuto questa macchina. Se avete internet scrivete Chevrolet 1956-57 eccetera, e poi provate ad abbinare le cose con i film magari in bianco e nero di quel periodo. È proprio una parte nostalgica di un periodo che non esiste più. Oltretutto anche fare macchine in questo modo adesso sarebbe molto difficile con il computer, perché sono molto pesanti, non hanno l'aerodinamica, proprio non, quasi non c'era, era tutto per la bellezza della cromatura, la bellezza della macchina stessa, l'enormità, oltre il fatto di avere dei motori che consumavano come 10-8 treni di adesso. Ma allora la benzina costava pochissimo e l'inquinamento, vabbè, non sapevano neanche ancora bene cos'era, forse un po' di fumo come quando c'erano nei famosi film di comici, in cui c'era il famoso macinino che non riusciva a partire con la manovella, e poi tutto assieme con uno sbuffo e usciva fuori una quantità di fumo e niente, poi la macchina partiva. Non c'era ancora Greta Thunberg in quel momento e la gente si divertiva come poteva e probabilmente, oltre a divertirsi, avrà rovinato anche un po' l'ambiente, non lo so. Comunque questo piccolo spazio oggi è dedicato a queste cose qua. Lo continueremo, faremo come magari delle piccole, appunto come in questo momento, dei piccoli podcast che richiamano queste cose del passato. E per questa volta io vi ascolto, sì, vi do la benedizione, scusate, sono anche sacrilego, e vi do il benvenuto alla prossima volta e mi raccomando sempre con Letteralmente Radio. E tutti i miei colleghi sono stati citati, naturalmente non citati in giudizio, non andiamo in tribunale, sono stati citati dal jingle che sono stati messi in questo momento appunto su questo podcast. Ciao ciao a tutti da parte di Mauro. In every Chevrolet showroom across America, more and more people are looking at the car that's just out and just wonderful, the 1957 Chevrolet. Some are looking at Chevrolet's daring new front-end styling, the bold new grille, big, beautiful sloping hood. Some are looking at Chevy's handsome new rear end with high fashion fenders and fresh new design. Everyone's enthused about the new color-fashioned interiors and the sleek command post instrument panel. And the biggest news of all, Chevrolet's fuel injection, the greatest engine advance. Tired of the waves that come and knock you off your feet, I'd long to see you on a day when you won't drown. The constant dragging and deceit, your hands been tied in there to greet a life that's bounded to a world that keeps on taking every day. Maybe you're tired of the strains, the lonely highs, the constant rains that seep right through you on the days you're coming down. Maybe relying on horizons where the skies they fill with diamonds, ain't surprising that the love that you have lost is in your mind. Where we go, we'll take the highs and lows with a smile. We see forever free from here. Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet, I'd long to see you on a day when you won't drown. Maybe the answer lies beneath these scattered words, they fill our streets and now the lights without the power flicker on into the night. Where we go, we'll take the highs and lows with a smile. We see forever free from Letteralmente Radio by Yoga Network. www.letteralmente.info. La radio con tante radio dentro. Maurizio DJ, Studio 0 Ferrara. Renzo, Studio 1 Bologna. Fabio, Studio 2 Enna. Cristina, Studio 3 Firenze. Mauro Boditaru, Studio 4 Sanremo. Bastian Contrario, Eli The Worst e Gabriele, Studio 5 Montebaldo. Letteralmente Radio by Yoga Network. La radio con tante radio dentro. Scrivici radioyoganetwork@gmail.com. Rema nella direzione giusta. Scegli Letteralmente Radio Yoga Network. www.letteralmente.info. Con noi è meglio. Gli audio che seguono sono tratti dal canale YouTube. youtube.com/user/Emanuela Torri. Buon ascolto di Letteralmente Radio Yoga Network. Buongiorno a tutti, care e cari nel Signore. Sono molto contenta di poterci rincontrare oggi e qui siamo nella stanza delle letture casalinghe stiamo continuando a leggere questo testo molto bello che è il Vangelo di Gesù secondo Yogananda Paramahansa e oggi è l'11 maggio del 2020 e possiamo dire con certezza che siamo entrati nella seconda fase del lockdown. Oggi è lunedì e si prevede che ci siano molte riaperture oggi, ovviamente tutto sempre con quelle purtroppo restrizioni di distanziamento sociale che dobbiamo per forza seguire. Ma noi in questa stanza qui delle letture casalinghe cerchiamo di creare un po' uno spazio, un happening, no? Come mi piace definirlo. Che uno spazio un po' che si colloca avulso da tutto questo marasma e bailamme del quale siamo circondati, perché questa situazione ovviamente sta veramente condizionando pesantemente le nostre vite, che erano già condizionate, perché noi lo sappiamo, chi segue un discorso spirituale di qualsiasi linea sia, perché sappiamo che ci sono tante linee, perché ovviamente Dio è infinito e quindi le risposte a Lui sono comunque tantissime e noi cerchiamo di racchiuderle un po', cerchiamo di essere poco settari, no? Ecco perché stiamo leggendo anche questo testo che appunto appartiene ad una tradizione che è lontana da quella dalla quale io provengo, perché qui si parla di cristianità, no? Ma Mi piace proprio questo, mi piace proprio non sentirmi costretta in un solo discorso, perché già la nostra realtà di anime condizionate, noi siamo proprio condizionate o ci autocondizioniamo, e io in queste stanze, sia in questa qua delle letture casalinghe, sia nell'altra, non mi voglio far condizionare, mi voglio sentire libera e di poter leggere con voi il più ampio numero di testi che ci parlano di spiritualità, perché per me la spiritualità è proprio libertà. Cioè, mi voglio sentire molto molto libera, e perché è questa la risposta che cercando un Dio mi viene restituita. Cioè, io mi sento proprio ancor più desiderosa di libertà dal momento in cui sono entrata in questo sistema di pensiero che, appunto, proprio per la sua natura intrinseca è proprio al di là della dualità. Quindi noi cerchiamo di essere molto al di là di tutto, vogliamo essere al di là. Io questo l'ho sempre sentito molto, anche quando ero ragazza. Mi ricordo negli anni 70 c'erano molte correnti ideologiche che venivano, si stavano cominciando a formare, insomma, tante si stavano definendo ancora di più, ma tante stavano, diciamo, proprio fiorendo in quel periodo. E mi ricordo una cosa che mi accompagna molto e la voglio condividere con voi, anche proprio per spiegare quella che è la mia idea, la mia posizione all'interno di queste stanze, no? Che sono sì stanze, ma in realtà le nostre mura che ci chiudono sono delle mura comunque di cristallo, sono mura trasparenti, sono mura molto delicate perché ovviamente sono di cristallo, ma nello stesso tempo sono trasparenti. L'esterno può vedere noi e l'interno può e noi possiamo vedere all'esterno. Un po' è questa l'immagine che mi piace trasmettere, no? Come l'altra che vi ho detto l'altro giorno del megafono. Ecco, questa è un po', diciamo, il mio spirito, la mia natura. Non riesco a identificarmi con niente, neanche con la mia con il mio corpo, che so che è un corpo di donna, ma in realtà forse a qualcuno può sembrare strano, ma non mi sono mai sentita solo una donna. Mi posso sentire anche uomo, mi posso sentire anche né uomo né donna, proprio questo, infatti, questo è quello che vi volevo raccontare, no? Perché questo io l'ho capito, l'ho proprio messo a fuoco quando ero molto giovane, appunto quello che stavo dicendo prima. E stavo camminando negli anni 70 a Piazza di Spagna, no? Perché come ormai tutti sapete, insomma, sono nata a Roma, ho vissuto prevalentemente a Roma, e c'era questo fiorire di tante idee in quel periodo. Gli anni 70 sono stati anni straordinari, e dove ognuno sentiva di dire qualche cosa di nuovo, di rivoluzionario. C'erano le donne con il femminismo, c'erano vari gruppi di sinistra, c'erano gli hippie, quelli che a Roma noi chiamavamo i fricchettoni, c'erano i gay, le lesbiche, c'era tutto, c'era un movimento fortissimo dove tutti in un certo senso riuscivano a trovare, no, la loro poi alla fine collocazione. E invece io mi ricordo che camminavo appunto per queste strade di Roma meravigliose, mi sono fermata lì a Piazza di Spagna e c'era un ragazzo con una bancarella che vendeva tutte queste vari oggetti, e tra questi oggetti c'erano un sacco di spillette, non so se ve le ricordate, ma non lo so, forse ci staranno ancora, non lo so. Comunque erano delle spillette piccoline, rotonde, che tu ti mettevi al corpo, sul corpo, per distinguerti dagli altri. C'era, che ne so, la spillettina degli anarchici, c'era quella del Che Guevara, c'era quella del Partito Comunista Italiano, perché all'epoca ancora si chiamava così. E poi anche di altri, ovviamente, e mi ricordo che io me le guardavo tutte, no? Ero molto attratta da tutte queste spillette, però il ragazzo a un certo punto mi chiede: ma quale vuoi, quale vuoi? Allora io indicai una spilletta che si distingueva un po' da tutte le altre, e era, mi ricordo benissimo, purtroppo non ce l'ho più, altrimenti ve la facevo, l'avrei fatta vedere. Era rosa, e il colore era rosa e un grigio celeste, così. E allora il ragazzo mi disse: ah, ti piace quella? Quella è la spilletta del fuori. Quindi il fuori, mi ricordo che ero proprio stata attratta, no? E quello in realtà è stato un po' il marchio. Cioè, questa spillettina rotonda ha un po', diciamo, stigmatizzato quello che poi è stata nella mia vita, cioè che è stata poi la mia vita negli anni a venire, no? Perché la tendenza di solito nelle persone è quella di voler comunque appartenere per forza a qualche cosa e a identificarsi in questo qualcosa nel quale si sentono comunque riconosciuti, si sentono protetti, e che possono essere tante cose: può essere un partito, può essere una corrente artistica, può essere un matrimonio, può essere appunto l'istituzione della famiglia, può essere una religione, possono essere tante cose che in realtà nel mio caso non mi riescono a trattenere. Io mi rendo conto che sono, diciamo, una personalità un po' incollocabile, però insomma di questo fino a poco tempo fa me ne facevo un cruccio, e adesso invece con la maturità lo voglio far diventare invece qualche cosa di di importante, di riconoscibile proprio nella sua incollocabilità, perché ci sono molte persone come me, e io lo so che siamo in tanti, però purtroppo per tutta una serie di condizionamenti che ci autoinfliggiamo, perché poi alla fine ce li autoinfliggiamo, perché in realtà noi viviamo fortunatamente in un paese comunque libero, che è l'Italia, e quindi abbiamo tutta una serie di possibilità per uscire fuori da questo condizionamento, no? Imposto, autoimpostoci. E la spiritualità, più ne entri dentro in maniera così libera, non nella maniera dove ti devi sentire, diciamo, condizionata, circoscritta, perché devi per forza aderire a qualche cosa. Quando la vivi così, ti rende ancora più libero, ti rende ancora più libero e tutto quello che realmente tu sei viene a galla con un coraggio ancora più energico. Ecco, io un po' questo sto vivendo adesso, insomma, in questo momento della mia vita, dove ovviamente l'età ha anche, diciamo, il suo peso, il suo valore, perché non è solamente un peso, perché gli anni della giovinezza sono passati. No, è un valore che bisogna considerare, e quindi questo è un messaggio rivolto anche a tutti i miei amici dai 40 in su, che insomma sfruttiamo questo periodo, perché abbiamo avuto la fortuna, almeno finora, di essere ancora vivi, e quindi dobbiamo sfruttare questo momento, perché dai 40 in su la vita veramente cambia. E auguro a tutti, come lo dico sempre alla fine dei miei video, ogni bene. E allora, dopo questa premessa, che ormai abbiamo capito che mi piace fare all'inizio di ogni video, durante la metà e poi di solito alla fine, andiamo avanti con questa lettura meravigliosa, che dovevamo continuare con continuiamo dal paragrafo amore incondizionato. Guardate, non è un caso, eh? C'è un profeta, Mosè, che giudica giustamente i vostri peccati davanti a Dio, secondo la saggezza divina, e voi avete fiducia in lui. Mosè aveva l'amore condizionato del padre verso il figlio. Se il figlio era buono, il padre lo amava, ma se era cattivo, il padre lo puniva. Mosè trattava i suoi discepoli con l'amore incondizionato del Padre, ma l'amore che io vi do è simile all'amore incondizionato della madre, che ama il figlio senza badare se questi è buono o cattivo. Ed è strano che quando credete a Mosè, voi non credete a me, che ho per voi un amore più grande di quello che aveva Mosè. E se non credete ai visibili scritti, scusate, devo sistemare bene, no? Allora, bellissimo. Quindi, ed è strano che quando credete a Mosè, voi non credete a me, che ho per voi un amore più grande di quello che aveva Mosè. E se non credete ai visibili scritti profetici di Mosè, poiché Mosè scrisse della mia venuta nelle sacre scritture, come potete credere soltanto alle mie parole? Secondo la condotta di un vero devoto di Dio, Gesù stava cercando di persuadere i suoi figli confusi dall'ignoranza, mediante la ragione e manifestando amore e umiltà, e non con le minacce teologiche e la paura della punizione divina o con la costrizione dei miracoli fisici. Se Dio Onnipotente usasse la forza per fare ritornare a sé i suoi figli prodighi, questi sarebbero creature meccaniche e non piene di spirito. Dio diede agli uomini libero arbitrio, affinché essi potessero accettarlo o rifiutarlo se volevano, sperando forse che l'uomo avesse usato la ragione per abbandonare i piaceri temporanei della carne e avesse scelto l'amore eterno nel suo spirito, con tutti i suoi poteri miracolosi. Gesù stava discutendo con le persone ignoranti, cercando di destare in loro la saggezza con la quale avrebbero potuto usare il loro libero arbitrio per abbandonare i mali dei piaceri dei sensi e cercare la permanente beatitudine sempre nuova, meditando su Dio. Questo è il punto. Avendo in testa Dio costantemente, meditando su Dio costantemente, noi entriamo in questo stato di cose, cioè noi abbiamo una beatitudine interiore sempre nuova. Ma questo deve essere chiaramente una libertà. I miracoli non si possono compiere senza la coscienza divina, di cui la follia dell'egotismo. Giovanni, intanto, che era in carcere, quando sentì parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un altro?» Gesù rispose: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi recuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi riacquistano l'udito, i morti risuscitano e ai poveri è predicata la buona novella. Beato è colui che non si scandalizza di me». Matteo 11, dal verso 2 al 6. Gesù disse: «Tornate indietro e riferite a Giovanni il Battista tutto ciò che avete visto e sentito sulle dimostrazioni di Dio fatte tramite me. Come i ciechi fisici e spirituali ricevono la vista fisica o la visione spirituale interiore, gli zoppi camminano, i lebbrosi fisici, morali e spirituali vengono guariti e mondati dalla saggezza. I sordi fisici riacquistano l'udito, i sordi spirituali ascoltano la voce della saggezza. I morti fisici vengono nuovamente risuscitati dall'energia cosmica. Gli uomini spiritualmente morti vengono rinnovati dalla saggezza e dal battesimo spirituale, e i poveri di spirito ricevono il contatto vivente della saggezza e della vibrazione di Dio. Vangelo significa parola sacra o vibrazione di Dio. Dio non parla mai a nessuno, eccetto ai suoi devoti. Dio non parla mai a nessuno, eccetto ai suoi devoti. Naturalmente egli può parlare al devoto mediante una forma umana, ma di solito parla attraverso vibrazioni intelligenti che si manifestano come suoni nell'etere, oppure Dio fa vibrare la sua saggezza attraverso l'intuizione del devoto. Dio fa vibrare la sua saggezza attraverso l'intuizione del devoto. Gesù parla del suo messaggio vibrante di coscienza divina. Nessuno può predicare la verità vibrante di Dio se non la sente dentro di sé. Questo è proprio un imperativo categorico. Nessuno può predicare la verità vibrante di Dio se non la sente dentro di sé. I comuni insegnanti spirituali predicano e parlano della verità grazie al sapere libresco, ma i maestri come Gesù parlano della verità che sentono nella loro coscienza. Non la mia gloria, e benedetto colui che non trova colpa in me, accusandomi di egotismo, o che faccio i miracoli per magnificare la mia gloria. Benedetto colui che invece apprezzerà le dimostrazioni dei miracoli spirituali che faccio, non con l'autorizzazione che faccio con l'autorizzazione e la volontà di Dio per riportare a Lui le anime illuse. I miracoli fatti dalle anime semisviluppate possono ingannarle quando cominciano ad essere rovinate dalla lode degli ammiratori, dimenticando di dare lode e gloria a Dio soltanto. I miracoli non si possono compiere senza la coscienza divina, perciò è folle cercare l'autoelogio. Nel corso del suo più alto sviluppo spirituale il devoto riceve il dono dei miracoli, ma usarli senza il permesso di Dio è peccato e porta come conseguenza la degradazione spirituale. Gesù realizzò che normalmente l'ostentazione di miracoli può essere un'offesa divina, ma chiunque riconosceva che egli stava facendo miracoli per manifestare la gloria di Dio era benedetto, perché avrebbe ricevuto la realizzazione divina. Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Che cosa dunque siete andati a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Coloro che portano morbide vesti dimorano nei palazzi dei re. E allora, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, anche più di un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero che preparerà la tua vita, la tua via davanti a te. Matteo 11 dal verso 7 al 10. Giovanni il Battista. Gesù chiese alla folla, in mezzo alla quale c'erano molti seguaci di Giovanni che erano andati a trovarlo nel deserto: che cosa siete andati a cercare nel deserto? Non un uomo vestito con morbidi e splendidi indumenti di seta, ma Giovanni il Battista, vestito solo di pelli. Egli è una canna divina vibrante al vento di Dio. Certamente non siete andati a cercare un'autorità politica splendidamente vestita che si può trovare nella corte di un re, ma nel deserto siete andati a vedere un uomo di maggiore autorità spirituale di quelli che si trovano nelle corti terrene dei re. Sì, siete andati a vedere un profeta che parlava di Dio, ma egli è più grande di un comune profeta, poiché è un profeta speciale che fu predestinato ad essere il mio precettore in un'incarnazione passata e a svolgere una grande parte nel piano divino. Infatti, questa volta egli venne sulla terra per proclamare il Figlio di Dio in me. Ecco perché Gesù citò dalle Sacre Scritture: «Ecco, io, Dio, mando il mio messaggero, Giovanni il Battista, davanti a te, prima di te. Egli preparerà la strada davanti a te, ed è ordinato che il mio messaggero divino Giovanni farà riconoscere alle menti delle persone il Cristo in te, o figlio mio Gesù». Marco 1:2. «Ecco, manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate, l'angelo dell'alleanza che voi desiderate. Ecco, viene, dice il Signore degli eserciti». Malachia 3:1. Anche se Dio ha dato indipendenza a tutta la creazione, tuttavia in questo cosmo disordinato da Satana, Dio ha certi piani da portare a termine per sconfiggere l'influenza di Satana e ristabilire il suo regno. Di tanto in tanto i profeti dichiarano la volontà di Dio. Per questo Gesù citò che era stato ordinato da Dio molto tempo prima, come era espresso nelle Sacre Scritture, che Giovanni il Battista doveva annunciare Gesù Cristo. Il guru doveva far conoscere il suo discepolo Gesù al mondo. «In verità, vi dico, tra i nati di donna non è mai sorto uno più grande del Giovanni Battista. Tuttavia il più piccolo nel regno dei cieli è il più grande di lui». Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora il regno dei cieli è oggetto di violenza e i violenti se ne impadroniscono. La legge e tutti i profeti infatti hanno profetato fino a Giovanni, e se lo volete capire, egli è quell'Elia che deve venire, chi ha orecchi intenda. Matteo 11, dal verso 11 al 15. Oggi ho scoperto che nei video, scusate la parentesi, che nei video c'è il tempo. Ecco, per esempio, adesso già sono passati 30 minuti dall'inizio del video. Allora, pensavo che siccome questi miei video sono un po' troppo lunghi e possono risultare forse noiosi, non lo so, allora avevo pensato che massimo, poi vabbè, queste sono delle limitazioni che mi metto, no? Però insomma, per una fruibilità diciamo più dolce da parte degli ascoltatori, pensavo che forse lì dovevo ridurre a massimo 45 minuti. Però io prima non lo sapevo, non ci avevo fatto caso, perché purtroppo sono miope, quindi non vedo da lontano, lo schermo per me è già lontano. Però ho scoperto proprio adesso, in questo momento, che sotto c'è una piccola finestrella che mi segnala il tempo del video. Adesso stiamo per esempio a 31 minuti e 53 secondi. Allora, abbiamo un altro quarto d'ora. Questo è acqua e integratore. «In verità dico a voi tutti che tra coloro che sono nati dalla carne non c'è stato nessuno più grande di Giovanni il Battista, poiché egli è stato scelto per battezzare Gesù Cristo, riformatore di un ciclo del mondo». Gesù sottolineava continuamente la grandezza di Giovanni il Battista e tutto ciò che era stato nella precedente incarnazione come Elia e tutto ciò che doveva compiere in relazione a lui, Gesù. Il più piccolo in cielo, questo è importante, sentiamo come lo spiega, perché prima appunto abbiamo letto che dice, dove appunto nella Bibbia c'è scritto E in verità vi dico, tra i nati di donna non è mai sorto uno più grande di Giovanni il Battista. Tuttavia, il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Spiegazione. Non di meno, chiunque ha ottenuto la liberazione finale nella misura più piccola possibile nel regno dei cieli è più grande di Giovanni il Battista. Qui Gesù distingue tra l'autorealizzazione nella vita terrena di Giovanni il Battista e l'autorealizzazione perfino della più piccola anima individuale che viene definitivamente liberata nel regno dei cieli, ovviamente. E dal tempo antecedente Giovanni il Battista fino ad ora o fino al momento presente e a tutti i tempi futuri. Il regno di Dio è oggetto di violenza, permette di venire conquistato da una forte e violenta volontà e determinazione. Gesù dice con il grande yogi Patanjali che i divoti fortemente determinati ottengono la salvezza e il celestiale stato di beatitudine puntando con forza la loro visione, forza vitale e concentrazione su Dio. E i violenti lo prendono come la forza, significa che un'anima che medita profondamente, intensamente e continuamente e guidata da un degno yogi precettore sa come staccare velocemente con la forza la sua vita dal corpo, permettendole di unirsi all'energia cosmica presente nello spazio. Questo libera l'anima dalla prigione corporea e la unisce con la propria dimora cosmica in tutto lo spazio. Patanjali sottolinea in particolare che coloro che sono assai desiderosi di conoscere Dio e meditano profondamente si uniscono rapidamente con lo Spirito. La suddetta legge che il regno dei cieli può essere ottenuto rapidamente dalle persone spiritualmente desiderose è manifestata nella vita di Giovanni il Battista, che conquistò il regno di Dio con la forza della sua volontà. I profeti del Vecchio Testamento. I profeti o veggenti del Vecchio Testamento che rivelarono la volontà di Dio e la legge, cioè il piano di Dio progettato nella creazione e rivelato attraverso le sacre scritture, profetizzarono sugli avvenimenti spirituali, finché alcune di quelle profezie si adempirono di fatto nella vita di Giovanni il Battista, che doveva venire sulla terra secondo i piani divini e come era stato predetto dai profeti. Quindi Gesù disse e spiegò come la vita di Giovanni il Battista non era un evento fortuito, ma determinato secondo il piano divino. Allora Gesù disse: tutti quelli che hanno il potere della visione per ricevere e comprendere la verità circa la profezia della venuta di Giovanni il Battista realizzino che egli non è altri che l'Elia di un'incarnazione precedente. Qui Gesù indica in maniera precisa che soltanto la reincarnazione spiega come le anime che prese dalla morte abbandonano le rive della vita senza poter raggiungere la salvezza, possono di nuovo sforzarsi e raggiungere la liberazione finale attraverso molte altre incarnazioni umane. Reincarnazione significa che quando un'anima lascia il corpo in uno stato poco sviluppato, essa deve ritornare in un altro corpo, nella vita terrena, per completare il suo sviluppo spirituale e riguadagnare la coscienza della sua persa identità con Dio. Gesù dice chiaramente che l'anima di Elia era entrata nel corpo di Giovanni il Battista, poiché non aveva raggiunto la liberazione finale. E perché secondo il piano divino doveva compiere certe attività in relazione con la vita di Gesù. Udito spirituale, ecco, questo è importante. Chi ha orecchi spirituali per ascoltare e sentire la vibrazione della verità, ascolti o realizzi la verità che sta dentro le anime, che sta dentro le mie parole. Molti di quelli che ascoltarono Gesù resero giustizia all'azione di Dio perché erano stati battezzati o preparati spiritualmente da Giovanni il Battista. Ma gli scribi e i farisei, che non erano stati battezzati o preparati da Giovanni, rifiutarono il consiglio di Dio che veniva tramite Gesù, anche se questo consiglio veniva dato per il loro bene. A chi paragonerò questa generazione? Essa è simile a quei fanciulli seduti nelle piazze che si rivolgono agli altri compagni e dicono: «Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. È venuto Giovanni che non mangia e non beve e hanno detto: ha un demonio. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e dicono: ecco un mangione e un beone, amico di pubblicani e peccatori. Ma alla sapienza è stata resa giustizia dalle sue opere». Infatti, questo un po' spiega l'atteggiamento di una certa umanità che è sempre così molto criticona, no? Che secondo quello che fai non va mai bene, insomma, o in un modo o nell'altro non va mai bene. Però poi alla fine quello che conta sono le opere. Matteo 11, 16, 19. Gesù disse che gli uomini di questa generazione sono come bambini ignoranti che siedono pigramente in un mercato senza comprare niente, né impegnandosi in giochi felici, né rammaricandosi di sprecare il tempo inutilmente. Quello che Gesù voleva dire è che il mondo è un mercato dove la gente con il proprio lavoro compra cose materiali o spirituali, ma molte persone sono ignoranti e sciocche come bambini che vengono sulla terra e sono troppo pigri per spronarsi null'altro e impegnarsi in cose che vale la pena di fare. Queste persone si accusano sempre reciprocamente della colpa di non essere progressivi e dicono: «Vi abbiamo suonato il flauto ma non avete danzato». Invece di impegnarsi nelle cose spirituali, queste persone ignoranti sperperano il loro tempo nella pigrizia fisica e mentale. Occasionalmente alcuni si lamentano di sprecare inutilmente il tempo prezioso della vita, mentre altri non versano mai una lacrima per la vita che sperperano infruttuosamente oziando. Gesù voleva dire che in questo mercato della terra, dove i veri devoti sono impegnati ad acquistare le qualità spirituali, alcuni trovano occasionalmente piacere nelle cose spirituali, mentre altri non trovano nessun piacere nella cultura spirituale. Alcuni si lamentano perché non trovano la verità e altri non piangono mai perché non trovano la verità. Inoltre, egli voleva dire che questa terra è piena di gente che passa il tempo ad accusarsi reciprocamente di non progredire spiritualmente. Ecco perché i farisei passano il loro tempo nell'ozio e nell'indifferenza interiore, accusandosi reciprocamente della colpa di sprecare il tempo. Presi dalla follia, essi agiscono come bambini ignoranti e non riescono a trarre vantaggio del bene portato loro da Dio mediante Gesù. Gesù continuò: «Voi scribi e farisei impegnati a sperperare il vostro tempo nel mercato della terra, dove potreste trovare Dio? Voi siete ignoranti, indifferenti, ciechi e mentalmente sconcentrati. E perciò non avete potuto riconoscere la grandezza spirituale di Giovanni il Battista e il bene che avrebbe potuto farvi. Voi, folli, pensate che egli sia posseduto da un demonio, anche se esternamente abbastanza autocontrollato, perfino da non mangiare pane o bere vino. Se di uno esternamente autocontrollato potete pensare che sia posseduto da un demonio, allora come potrete riconoscere il figlio di Dio nascosto dietro il figlio dell'uomo o la natura umana che esternamente mangia e beve? Voi pensate a me come a un goloso o a un beone, a uno che si associa con i pubblicani e i peccatori. Voi non sapete che qualsiasi cosa facciano, anche se esternamente non viene compresa, tutti i figli della saggezza come me sono giustificati dalle sottili e immutabili leggi della vera saggezza interiore. Qui Gesù Qui Gesù enfatizzò che sebbene Giovanni fosse molto avanzato, tuttavia si trovava in uno stato d'autodisciplina spirituale nel quale doveva digiunare e seguire certe leggi di azioni fisiche, mentre lui, Gesù, anche se prendeva pane e vino, era molto più avanti di Giovanni Battista e aveva ottenuto la coscienza divina. Così che mangiare pane e bere vino, secondo la consuetudine, non aveva connessione se con la sua natura fisica, il figlio dell'uomo, e non toccava la natura spirituale manifestata in lui come figlio di Dio. Autodisciplina. Gesù voleva dire che Giovanni il Battista era cosciente del corpo e perciò, malgrado la sua spiritualità interiore, doveva seguire una disciplina fisica, mentre il Figlio di Dio in Cristo era completamente distaccato dalle azioni del Figlio dell'uomo, Gesù. Egli voleva dire che gli scribi e i farisei erano talmente ciechi spiritualmente che se non potevano riconoscere la spirituale ed esteriormente disciplinato Giovanni Battista, come avrebbero potuto riconoscere la grande spiritualità di Gesù nascosta dietro la vita apparentemente immutata e comune dei vecchi tempi? Gesù non condannò l'autodisciplina di Giovanni il Battista, né approvò il mangiare e il bere quando non si è guidati dalla saggezza, ma disse semplicemente che l'individuo spiritualmente cieco non può riconoscere la bontà dell'uomo neanche quando questi è esternamente buono, né può riconoscere la profonda spiritualità nascosta dietro una vita semplice. Guidato dalla saggezza. Inoltre Gesù sostenne che le sue azioni erano guidate dalla saggezza, cioè qualsiasi cosa faceva era guidata soltanto dalla vera saggezza intuitiva. Gesù mangiò e bevve per essere socievole con i pubblicani e i peccatori, per far sentire ad essi che era con loro. Così facendo Gesù poteva frequentare da vicino i peccatori o coloro che sbagliavano e avevano bisogno di lui, e che egli poteva aiutare grazie alla confidenza che avevano in lui, considerato come uno di loro. Se Gesù avesse assunto un'attitudine ostile contro tutte le attività sociali, sarebbe stato evitato da tutti e per lui sarebbe stato impossibile fare del bene a tutti. Gesù sapeva che il suo mangiare e bere non avrebbe fatto del male a lui o a altri, e che la vicinanza della sua personalità magnetica avrebbe redento i peccatori dai loro errori. Gesù sapeva che il suo mangiare e bere non era importante, mentre per lui era della massima importanza associarsi con i peccatori, diventando apparentemente uno di lui e simpatizzando con loro. Allora si mise a rimproverare le città nelle quali aveva compiuto il maggior numero di miracoli, perché non si erano convertite. Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se a Tiro e a Sidone fossero stati compiuti i miracoli che sono stati fatti in mezzo a voi, già da tempo avrebbero fatto penitenza in cilicio e cenere. Ebbene, vi dico che nel giorno del giudizio Tiro e Sidone avranno una sorte meno dura della vostra. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai, perché se a Sodoma fossero avvenuti i miracoli compiuti in te, ancora oggi essa esisterebbe. Ebbene, vi dico, nel giorno del giudizio avrà una sorte meno dura della tua. Matteo 11:20-24. O abitanti di Corazin, di Betsaida, voi avete visto le potenti opere del potere segreto di Dio, ma non ne avete tratto abbastanza profitto da cambiare le vostre vite, anche se avete assistito a delle dimostrazioni spirituali e avete visto cosa potrebbero fare per voi. Alla fine della vostra attitudine mentale per niente ricettiva vi porterà a seguire le vie del male e a cadere nelle fosse di dolore. Anche gli abitanti delle antiche città di Tiro e Sidone sarebbero stati più ricettivi se avessero visto queste dimostrazioni divine. Essi si sarebbero pentiti profondamente delle loro cattive vie, facendo la penitenza di portare il cilicio e ricoprirsi di cenere. Ricoprirsi di cenere, come fanno i Nagababa, gli Agori in India. Vi profetizzo che quando lascerò questo corpo, stando nella mia coscienza cristica, guarderò con gioia le anime dei morti di Tiro e Sidone, innalzati in una più alta regione d'esistenza vibratoria. Che cos'è il giorno del giudizio? Il giorno del giudizio non è stabilito dagli dèi in un certo periodo, ma generalmente consiste di quel tempo dopo la morte, quando le anime disincarnate ricevono il giudizio o i frutti delle azioni, secondo le azioni accumulate nelle vite passate. Perciò il giorno del giudizio è quel tempo dopo la morte, quando le anime, in conformità con il loro karma individuale, ricevono il giudizio secondo la legge cosmica riguardo al tipo di rinascita o di promozione spirituale che devono avere sulla terra o su un'altra più alta sfera di esistenza. Ed è per questo che io so e posso predirvi, o abitanti di Corazin e di Bethsaida, che a causa della vostra indifferenza spirituale voi raccoglierete frutti cattivi nel giorno del giudizio dei vostri karma dopo la morte, e anche gli abitanti di Tiro e Sidone nel giorno del giudizio del loro karma raccoglieranno i risultati migliori grazie ai loro modi di vivere meno malvagi. La mia coscienza, che è onnisciente, continua e interrotta dalla morte, vede adesso tutto ciò che accadrà in futuro a tutti voi. Io profetizzo che nel giorno del vostro giudizio certamente mi rattristerò per la vostra follia, o abitanti di Corazin e di Bethsaida. Riguardo a Cafarna, o sua fissa dimora durante la sua vita pubblica, e perciò la città maggiormente favorita, Gesù dice come essa soffrirà nel futuro. Dice anche che i suoi abitanti sono stati molto ciechi e non hanno saputo apprezzare le dimostrazioni spirituali che hanno visto. Egli dice che se gli abitanti di Sodoma avessero visto quelle dimostrazioni, avrebbero avuto qui e nell'aldilà una condizione migliore di quella di Cafarnao, che fu esaltata in cielo per essere stata lo scenario di molti dei miracoli di Cristo, ma che non fu capace di apprezzare il suo onore. Allora, cari e carissime nel Signore, siamo arrivati a pagina 319 e continueremo nel nostro prossimo video parlando di che cos'è il peccato e come può essere perdonato. È possibile per qualcuno perdonare i peccati di un altro? Ecco, questa sarà la nostra prossima lettura, e vediamo che tempo sto. A 52, insomma, sono un po' sforato. E comunque non voglio che questo sia, diciamo, una che mi autocostringo nei 45 minuti, però preferirei, insomma, fare dei video un pochino più corti. E allora io vi ringrazio tantissimo di avermi seguito qui fino a qui nella lettura. Ognuno di voi può trarne quello che gli ha ispirato. E spero di vedervi, di continuare a vedervi nei prossimi video. Arrivederci. Gli audio da YouTube su Letteralmente Radio Yoga Network vengono prelevati su precisa autorizzazione degli autori. Ciò non autorizza nessun'altra stazione radiofonica a ritrasmettere tali contenuti che, ripetiamo, sono stati concessi a Letteralmente Radio Yoga Network esplicitamente. La trasmissione che segue può essere ascoltata per gentile concessione di Radio Isvara. www.isvara.org. Per informazioni, radioisvara@gmail.com. Brevi racconti con Ishvari. Buon ascolto con Radio Ishvara. Hare Krishna. Le 108 Upanishad sono considerate le essenze dei Veda e tra queste l'Isa Upanishad è una delle principali. Invocazione. Dio, la Persona Suprema, è perfetto e completo e poiché la sua perfezione è totale, tutto ciò che emana da Lui, come il mondo fenomenico, costituisce una totalità completa in se stessa. Tutto ciò che proviene dal tutto completo è completo in sé e poiché Dio è il tutto completo, egli rimane tale anche se innumerevoli unità, anch'esse complete, emanano da Lui. La gallina razzola il terreno. Guglielmo Marconi è inventore della radio e noi di Letteralmente Radio Yoga Network siamo il nettare dell'etere in streaming, audio podcast 365 giorni su 365 day. Canalizzatevi. È questa. Radiofoniche staticamente parlando, o meglio, ascoltando. Ovunque in Italia non c'è paragone. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Dal tempo. Eccoci qua ancora con un'altra puntata di questa selezione dall'archivio di RKC. Quante cose in tutti questi anni che la vostra radio, Radio Krishna Centrale, vi sta vicina. I devoti per fare trasmissioni hanno trovato idee, spunti da tantissime cose. Naturalmente la base e sono sempre i libri di Srila Prabhupada. Ed è sempre di buon auspicio rivolgere all'inizio di ogni cosa, di ogni azione, anche di questa trasmissione, un pensiero di gratitudine a Sua Divina Grazia e Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, il nostro maestro spirituale, eterno benefattore, fondatore della nostra associazione, Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. E a volte veramente i devoti hanno trovato, magari da dei giornali, delle notizie, delle avventure che veramente sono divertentissime, viste dal punto di vista dei devoti, ma alcune volte anche dal punto di vista della gente comune, certe vicende sono veramente ridicole. Come ad esempio questi viaggi organizzati, queste gite, questi safari in paesi così stranieri, in Africa magari. Che a volte sembrano proprio queste avventure un po' buffe, vissute anche in certi film comici, E proprio a questo proposito ne abbiamo una qui tratta da uno speciale Italia di Praladesh Das, proprio di un viaggio safari, ma non un safari, almeno non un safari di quelli che si va a uccidere gli animali, perché quello veramente sarebbe tragicomico, ma un safari fotografico. Così vediamo come la gente può non solo perdere tempo prezioso che potrebbe dedicare alla ricerca spirituale in cose che magari apparentemente potrebbero essere così viste, magari cose magari serie, apparentemente sempre si intende, perché di serio veramente c'è solamente la ricerca della nostra unione con Dio, Krishna, la persona suprema. Ma a volte veramente sono addirittura ridicolissime. Comunque andiamo a sentire. Innanzitutto questa è una rivista dedicata al viaggiare, alle vacanze, così, viaggi, vacanze, cose di questo genere. E così sfogliandola qualche giorno fa ho dato un'occhiata e ho visto che c'era un articolo divertente in un certo senso. È una lettera di un turista, un dottore tra l'altro, che ha avuto modo di sperimentare uno di quei tipici viaggi organizzati, no? Che sono tanto di moda al momento attuale, no? Cioè quei viaggi così che vengono molto pubblicizzati, no? Dappertutto, no? E il viaggio in particolare a cui ha partecipato questo nostro produttore era un viaggio in Kenya. Adesso io vi voglio leggere questa lettera perché è particolarmente divertente, no? E soprattutto fa vedere un po' così che tipo di imprevisti possono accadere quando uno fa un viaggio di questo genere. Poi però vi darò anche un'indicazione di come leggere questa lettera, cioè di come vedere questa lettera alla luce della filosofia della coscienza di Krishna. Naturalmente qui si parla dell'agenzia che ha organizzato il viaggio, infatti questa lettera è una specie di lamentela scritta dal sfortunato dottore che ha fatto appunto turista verso appunto l'agenzia, che ha un nome, sicuramente molti la conoscono, però siccome non è che vogliamo in qualche modo danneggiare nessuno, allora diciamo che la chiameremo in un altro modo, adesso magari vedo quando, oppure non la chiameremo per nulla. Allora andiamo un po' a vedere questa letterina divertente. Spettabile agenzia di viaggio. Quest'anno, desideroso di ammirare le bellezze del Kenya, su consiglio di una mia amica che mi ha raccomandato la vostra organizzazione come i top del Kenya, mi sono lasciato sedurre dal vostro depliante illustrativo. Non l'avessi mai fatto. L'unica cosa che la vostra organizzazione, si fa per dire, non è riuscita a rovinare è lo splendore del paesaggio. Anche la vostra agenzia nulla può contro la forza della natura. Ci tengo a precisare in via preliminare che chi scrive non è alla sua prima esperienza africana, ha 41 anni e ha trascorso circa 500 notti della sua vita sotto una tenda canadese in giro per l'Europa, quindi persona abituata ad arrangiarsi, ma che pretende di ottenere un servizio che ritiene di aver profumatamente pagato. Andiamo comunque per ordine nel riferire i fatti. Alla partenza dall'aeroporto di Fiumicino, l'incaricato della vostra agenzia, che riempie gli aerei di gente, non riesce a convincere il capo scalo a farmi imbarcare in cabina l'attrezzatura da ripresa contenuta in un bauletto di 50x30x35. Io ero disposto a pagare un supplemento. Pazienza. Lascio tutto a casa e porto solo la macchina fotografica. Scoprirò poi a Damboseli un signore che viaggiava con un'altra organizzazione con un bauletto come il mio. Arrivo a Nairobi, recuperiamo i bagagli e facciamo dogana senza alcuna assistenza. Ci carichiamo dei bagagli e usciamo. Tra decine di cartelli non vediamo quello della vostra agenzia. E finalmente, a forza di chiedere, ci indicano una giovane signora e un simpatico africano. Ci dividono in gruppi, ma loro sono solo tre e non possono portare le valigie di tutti. Ma che fa? Siamo in Kenya, il clima è favoloso, il tempo è splendido, ognuno si porta le sue valigie che sembrano non pesare, ma invece pesano. Arriviamo all'Hilton, ci danno appuntamento per le 14 per un giro di Nairobi, non compreso, e spariscono. Restiamo seduti nella hall in attesa delle chiavi, ma nessuno si occupa di noi. Dopo circa un quarto d'ora mi avvicino alla reception e chiedo la chiave. Il portiere controlla e me la consegna. Dopo di me anche i miei compagni di sventura chiedono a turno la loro chiave. Sera per la vostra agenzia, stavamo ancora lì ad aspettare. A questo punto veniamo a sapere che una nostra compagna di viaggio di Milano non ha ricevuto la valigia ed è disperata perché doveva proseguire per le Seychelles. Aveva con sé un guardaroba adatto e ora si trova senza nulla. Sono cose che succedono. Comunque c'è l'agenzia. L'agenzia promette e invece se ne frega, poiché alla fine del viaggio veniamo a sapere che la valigia è restata a Fiumicino in quanto si è staccato il talloncino. I tanto deprecati aeroporti di Roma, visto sulla valigia l'indirizzo delle Seychelles, hanno fatto un telex per sapere se la titolare era arrivata, ma questa era al safari e quindi la risposta è stata negativa. Se l'agenzia avesse telefonato da Nairobi a Fiumicino, la signora era disposta a pagare la telefonata, il problema si sarebbe risolto. Il mattino seguente alle ore 7.30 tutti pronti per partire per Masai Mara, ma i pulmini arrivano alle 8.30, poi si fa benzina, si controlla l'olio e quindi poco dopo le ore 9 si lascia Nairobi. Siamo in 14 e siamo sistemati in due pulmini a dir poco fatiscenti. Quello su cui siamo sistemati mia moglie e io, la famiglia Bertocchi di Bologna e due ragazze americane è decisamente il peggiore. La porta e i vetri non chiudono bene. L'imbottitura e il rivestimento dei sedili sono un ricordo di tempi migliori, il telaio metallico dei sedili è qua e là scoperto e rischia di ferire ad ogni scossa. Le molle sono completamente inefficienti e non ammortizzano nulla. Dopo 150 km a Narok, prima sosta per una riparazione e il cambio delle candele. Perdiamo un'ora buona. A questo punto cominciamo a renderci conto della nostra situazione che si rivelerà sempre peggiore. L'agenzia qui non esiste più. Ci ha venduti a un'agenzia di Nairobi che a sua volta ci ha subappaltato a due africani, proprietari dei pulmini, che parlano soltanto swahili e inglese e che si riveleranno ogni giorno più mascalzoni, gli unici che abbia mai incontrato in Africa, forse hanno imparato da certi europei. Tra forature e accidenti arriviamo a Masai Mara alle ore 15. dobbiamo mangiare di corsa senza poterci neanche spolverare perché il servizio giustamente sta chiudendo. Alle ore 16 tutti pronti per il safari. L'impatto con lo splendore della natura ci fa dimenticare i disagi e la stanchezza, ma per poco. Alla sera, tornando al lodge, un ranger ferma il nostro pulmino e li dirige tutte e due verso l'ufficio dove gli autisti vengono pesantemente redarguiti per aver girato nella riserva senza l'accompagnamento di un ranger armato. Per risparmiare 10.000 lire hanno rischiato la nostra pelle. Dopo un giorno di splendido safari ripartiamo per Nakuru il mattino di buon'ora, ma una nuova foratura ci blocca. L'autista non ha fatto riparare la prima ruota forata al lodge e quindi, montata la seconda ruota di scorta, dobbiamo fermarci al primo lodge e perdere 2 ore per riparare le 2 ruote. Tra altri intoppi, rabbocchi di olio alla media di 1 litro ogni 150 km e soste varie, arriviamo al lago Nakuru alle ore 14.45. Per recuperare il tempo perduto, il nostro autista, Rafael, ha guidato come un pazzo, superando e abbandonando l'altro pulmino in evidente difficoltà. Gli altri compagni di viaggio arriveranno dopo circa un'ora. Hanno avuto un guasto piuttosto serio e il pulmino era immobilizzato. Un pezzo, giunto fortunatamente da Nakuru, li rimette in sesto per l'indomani mattina. Intanto, l'unico pulmino superstite fa la spola tra il lodge e il lago, ma non possiamo ammirare il tramonto sul lago perché il nostro autista deve fare 2 viaggi e non vuole guidare col buio perché teme di rompere anche il suo mezzo. Ripartiamo il mattino con un notevole ritardo, ma siamo un po' sollevati perché pensiamo, passando per Nairobi ci faranno cambiare i mezzi. Illusi. A Nairobi nessuna traccia dell'organizzazione a cui abbiamo versato fior di milioni. Gli autisti ci piantano mezz'ora davanti all'Hilton, poi tornano, ci caricano via e a nulla valgono le nostre proteste. All'arrivo ad Amboseli, il pulmino dei nostri compagni si guasta per l'ennesima volta. Vediamo i nostri amici fermi che ci fanno segni mentre il nostro autista non vuole fermarsi per prestare aiuto. Dobbiamo alzare la voce e minacciare, solo così si ferma. Intanto anche al lodge di Amboseli arriviamo alle 15 e mangiamo sporchi, impolverati ed esausti. Lo spettacolo immenso ed emozionante del Kilimangiaro ci riconcilia con il mondo, ma i nostri autisti ci richiamano bruscamente alla realtà. Avvistiamo 4 ghepardi che si accingono a cacciare una gazzella, e mentre i pulmini di altre organizzazioni li seguono per assistere a questo spettacolo eccezionale, i nostri autisti si rifiutano di seguirli nonostante le nostre imprecazioni, preghiere, minacce in inglese, italiano e romanesco. Cito testualmente dal dépliant dell'agenzia di viaggio. L'autista guida, che oggi sostituisce il cacciatore bianco nel condurre i safari, sa avvistare fin da lontano gli animali più ricercati e sa avvicinarli senza che essi fuggano. Intuisce e rispetta le vostre esigenze fotografiche. Peccato che il dépliant non specifichi i metodi per ottenere questi servizi, che nel nostro caso potevano andare dal randello alla pistola alla nuca. Il mattino dopo, partenza alle ore 8.30, tanto Tsavo è vicino, 150 km, quindi si arriverà presto, magari. Dopo mezz'ora il pulmino dei nostri compagni si ferma per un guasto. Nel fermarci per prestare aiuto ci si blocca il freno anteriore destro e il pulmino quasi si rovescia. Per farmi sbollire la rabbia cerco di capire cosa blocca di continuo il pulmino dei nostri amici. Vedo che si tratta di una cosa piuttosto semplice e la riparo. Da quel momento il pulmino camminerà fino alla fine del safari. Eppure faccio il medico, non il meccanico. Ci fermiamo per riparare il nostro freno e un meccanico smonta il tamburo, le ganasce e i cilindretti. Scopro a questo punto una realtà impressionante. Le ganasce hanno solo qualche piccolo residuo di ferodo. I tamburi hanno dei solchi profondi 2-3 mm. Arriviamo finalmente a Tsavo, ma alle ore 16, quando siamo tutti pronti per fare il safari, ci annunciano che il nostro pulmino ha i freni guasti, e quando mai li ha avuti in ordine. E quindi il safari si svolgerà soltanto 2 ore al mattino del giorno prima di tornare a Nairobi. A questo punto ci rifiutiamo anche di essere turlupinati e decidiamo noi. Vogliamo un pulmino sano. I Il safari si farà domani mattina. Pranzeremo a Tsavo a nostre spese e pagheremo il pranzo all'autista. Nel pomeriggio poi torneremo a Nairobi. Messi alle strette, i due autisti chiamano Nairobi e finalmente arriva un altro pulmino seminuovo, confortevole, molleggiato, silenzioso, con la porta e i vetri che chiudono, e un autista gentile ed educato. Il safari a Tsavo e il ritorno a Nairobi sono stati gli unici momenti gradevoli di questo safari. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Simpatica è questa storia. Pensare che se fossero stati lì, il nostro dottore fosse stato lì per predicare la coscienza di Krishna, tutte queste austerità sarebbero state poi un racconto così pieno di gioia, perché praticare austerità per diffondere la coscienza di Krishna poi va sul bagaglio positivo, positivo in senso eterno. E invece... C'è una storiella che mi viene in mente, che mi ha raccontato un sannyasi che è venuto a trovarci, di un gruppo di devoti che appunto era a predicare in Africa. E così, viaggiando con la macchina in mezzo a territori abbastanza sconosciuti, si trovarono circondati da un gruppo, mentre erano fermi a prendere prasada, da un gruppo di guerrieri che così a prima vista non sembravano molto ben intenzionati. È una storia vera, eh? I devoti di Krishna sono dei grandi avventurieri per Krishna. Naturalmente i nostri devoti si sono chiusi in macchina per bene, tappando tutte le... però veramente erano, diciamo, abbastanza impauriti. E per ovviare a questa paura, cioè, senz'altro stavano cantando il Mahamantra molto intensamente. E i guerrieri si stringevano sempre di più alla macchina, tutti con le lance, gli scudi, guardavano dentro. Forse anche per loro questi personaggi con la testa rasata erano magari un po' strani. A un certo punto quello che sembrava essere il capo del gruppo parlò così nella loro lingua e si capì che faceva segni di stop, di fermarsi, e improvvisamente cambiò completamente l'atmosfera, diventò amichevole, quindi il capo cominciò a fare segni di uscire, insomma. Alla fine si scoprì che il capo di questo gruppo di guerrieri africani era stato una volta in città. E non solo aveva incontrato i devoti di Krishna mentre cantavano e danzavano per le vie del centro in estasi in nome di Dio, cosa che colpisce direttamente la natura, la nostra vera natura, autentica natura, quella di anime spirituali eterne, e quindi colpì anche il nostro capo tribù, ma aveva anche preso prasada, e lui ricordava con gratitudine e con piacere questo episodio. E tutti così finirono per riprendere prasada insieme. È una bella storia, vera? Quindi per dire come anche le situazioni più così impreviste per il devoto che va a predicare siano sempre poi al lieto fine. Ma continuiamo a sentire la nostra storia. Allora, avete sentito le disavventure keniote del nostro dottore di Roma, il quale ha partecipato a uno dei quei viaggi organizzati pensando di poter gustare le bellezze della natura e fare un bellissimo servizio fotografico, invece ha semplicemente gustato quello che noi potremmo dire l'amaro della vita materiale. Sì, perché in effetti, anche se in questa particolare lettera il nostro autore metteva in risalto anche un aspetto un po' così buffo, divertente, ironico della situazione, c'è da dire che in effetti tutta la vita materiale è così, non è che solamente quando uno va a fare un viaggio in Kenya si trova nei guai, ma lo si trova costantemente durante tutto il tempo. Solo che naturalmente i guai che uno può affrontare quando è in viaggio assumono un aspetto particolare, sembrano quasi più grandi o più degni di nota, perché in effetti il viaggio in vacanza è una situazione degna di nota, è una situazione molto, molto ben più importante di dei 320-340 giorni in cui si lavora durante l'anno. Se durante l'anno succede che ci si spacca la macchina o che qualcuno viene in ritardo all'appuntamento o che non troviamo posto per dormire, eccetera, è una cosa grave, no? Però nel corso dell'anno non fa testo, ma invece quelle disavventure che accadono nei giorni in cui uno va in vacanza sono molto degne di nota, cioè, restano molto impresse. Come mai restano molto impresse? Evidentemente quando si va in vacanza, quando le persone vanno in vacanza, ci vanno per essere felici, per stare bene, tranquille, per godere in pratica. E quando poi si trovano invece di fronte alla amara realtà che in questo mondo materiale il godere, cioè il piacere, l'aver piacere, provare piacere è una cosa molto molto difficile, anzi è assolutamente impossibile, allora le persone restano veramente turbate, scioccate da questa realtà veramente molto pesante e naturalmente poi magari reagiscono scrivendo magari queste lettere e così via. In effetti questa lettera qua, a prescindere da quello che è il discorso delle agenzie di viaggio che al giorno d'oggi magari imbrogliano i turisti eccetera, ci fa appunto meditare su quella che è la vita materiale. La vita materiale è proprio come questo viaggio che ha compiuto il nostro dottore di Roma in Kenya, e cioè un continuo alternarsi di gioia e dolore, ma che comunque, facendo una somma, presenta una prevalenza di dolore, una prevalenza di sofferenza, di tristezza, di difficoltà. E naturalmente in questo tipo di realtà, che è la vita materiale, tutti cercano di imporre la loro volontà, di modificare le cose a proprio favore, cioè a proprio in modo che possano soddisfare i loro desideri. Ma noi sappiamo comunque che tutte queste attività che vengono eseguite per cercare di essere più felici, di godere di più nel mondo materiale, non sono altro che una grandissima illusione, molto più amara di quello che sembra, perché in effetti tutte queste attività generano una reazione che dovrà poi portarci a pagare le conseguenze delle attività che noi facciamo. La tendenza di questo mondo materiale è quella di essere felice, ma poiché siamo privi di coscienza di Dio, non riusciamo a essere felici della giusta quantità che Dio stesso ci ha dato, ma vogliamo essere felici esagerando, cioè prendendo più del necessario. Come mai questo? Semplicemente perché l'anima non è soddisfatta. Se l'anima fosse soddisfatta, allora l'anima cosciente di Krishna cercherebbe solamente quello che è la dose che Krishna ha dato a noi, cioè quella che la quantità di felicità, di piacere che Krishna dà all'anima, a ogni anima, a ogni essere individuale. E questo sarebbe più che sufficiente per darci la felicità. Però succede che nessuno è cosciente di Dio, pochissimi sono coscienti di Dio. E allora cosa fanno? Non essendo coscienti di Dio, ognuno vuole il piacere, e il piacere naturalmente lo cerca attraverso i sensi. Cercando il piacere attraverso i sensi, la tendenza è quella di soddisfare i sensi per avere piacere. E per avere più piacere, o per continuare a prolungare nel tempo questo piacere, la tendenza è soddisfare sempre di più i sensi con gli oggetti del piacere, ma a un certo punto uno comincia a superare il limite consentito, vale a dire ad andare oltre alla quantità che era predisposta dalle leggi divine per lui, e quindi se prende più di quello che gli è necessario, evidentemente lo prende a qualcun altro, no? Quindi la regola vuole che in questo mondo materiale il piacere di una persona è sempre a scapito del piacere di qualcun altro. Molto rare sono le situazioni di equilibrio e comunque non sono assolutamente durature, durano solamente poco tempo, ma il nostro desiderio di piacere è sempre continuo, è costante, è eterno, e sappiamo che è eterno, senza fine. Per cui anche queste rare situazioni di bilancio, di equilibrio, non possono assolutamente soddisfare nessuno. Così possiamo vedere un equilibrio tra l'agenzia di viaggio che vuole fare i suoi guadagni, che vuole comunque soddisfare i clienti perché sa che soddisfacendo i clienti questi faranno buona propaganda per questa agenzia di viaggio e così via, che propone delle cose al turista, il quale naturalmente vuole il piacere, allora compra del piacere, situazioni piacevoli dall'agenzia di viaggio, l'agenzia di viaggio che poi si vale di aiuti di altre persone nel paese straniero che devono in qualche modo provvedere al piacere di questo turista. Però naturalmente gli interessi di tutti i vari personaggi implicati in questa storia sono naturalmente molto vari, non possiamo certo pensare che gli interessi di un dottore di Roma che fa il turista in Kenya siano gli stessi interessi dell'autista, del furgoncino che lo porta in giro nel Kenya, così pure non sono gli interessi di colui che ha organizzato questi viaggi in Kenya, dell'agenzia di viaggio, sono tutti interessi diversi e naturalmente questi interessi portano anche un tipo di coscienza nel fare queste attività, uno differente dall'altro. Quindi mentre il turista vuole semplicemente gioire, essere felice, spendere il meno possibile, mangiare le cose più buone, vedere, fotografare le cose più belle, il guidatore del furgone probabilmente vorrà fare il meno fatica possibile, vorrà guidare il meno possibile, vorrà viaggiare il meno possibile, vorrà andare tranquillamente senza sforzare il mezzo perché c'è il rischio che si rompa, vorrà ricevere molte mance, vorrà ricevere molti pranzi gratuiti e così via. Mentre invece l'organizzatore di questi viaggi, dell'agenzia di viaggi, lui desidererà che moltissimi clienti vengano da lui, moltissimi clienti desiderano acquistare il biglietto per partecipare al suo viaggio organizzato e si sforzerà per questo magari di ogni anno organizzare viaggi sempre più nuovi, più diversi, più affascinanti per invitare appunto le persone a partecipare ai suoi viaggi, quindi a dargli un lauto guadagno. Quindi queste tre persone non saranno mai soddisfatte fra di loro se la relazione che li unisce è quella tipica relazione del turista, dell'agente di viaggio e del guidatore del pulmino. Ma se la relazione che unisce queste tre persone si sposta da un piano materiale e diventa trascendentale, vale a dire si eleva a un piano spirituale, allora il centro della relazione fra queste tre persone diventerà Dio, la persona suprema, Krishna. E allora naturalmente queste tre persone andranno perfettamente d'accordo, perché allora il loro interesse sarà diventato unico. Per cui possiamo anche ipotizzare che un'agenzia di viaggio cosciente di Krishna un giorno organizzi un viaggio per aiutare la coscienza, lo sviluppo della coscienza di Krishna alle persone, ai turisti, e che tutti gli assistenti di questa organizzazione di viaggio cosciente di Krishna siano, per esempio anche i guidatori di pulmini, siano anch'essi coscienti di Krishna. Allora se questo sarà, se questo esisterà, noi possiamo essere certi che il piacere sperimentato dal turista, dall'autista del pulmino e dall'organizzatore dei viaggi sarà estremamente più elevato, perché come scopo avrà la glorificazione di Dio, il servizio a Dio, la diffusione delle glorie del santo nome di Dio. Infatti per questo vi posso dire che noi devoti di Krishna stiamo organizzandoci proprio in questo senso, nel desiderio di presentare a tutti coloro che sono interessati i luoghi santi dell'India, o anche naturalmente i luoghi santi in tutto il mondo, perché ormai i luoghi santi della coscienza di Krishna sono dappertutto. Così possiamo organizzarvi dei viaggi in India oppure in altre parti del mondo, visitando tutti i vari centri dei devoti di Krishna, luoghi sacri in cui Krishna manifestò i suoi divertimenti in India, oppure i luoghi in cui Srila Prabhupada per le prime volte diffuse il movimento per la coscienza di Krishna, e in questo modo possiamo giovare notevolmente alla vostra vita spirituale e fare felici voi, essere felici noi, essere felici anche gli autisti dei pulmini che saranno coscienti di Krishna, e in questo modo tutti potranno partecipare di una gioia superiore, trascendentale, senza naturalmente questo continuo tentativo di sfruttare la situazione da parte dell'uno, dell'altro, dell'altro ancora. Noi vogliamo infatti insegnare a tutti che Dio, la persona suprema, è padrone di ogni cosa e tutto appartiene a Lui, quindi anche noi apparteniamo a Lui, e noi dobbiamo semplicemente prendere da Lui quello che Lui ci dà, Lui ci assegna, e senza volere niente di più. Dobbiamo essere convinti che ciò che Dio ci assegna è più che sufficiente per il nostro mantenimento, per il nostro sostentamento, per soddisfare tutte le nostre necessità. E quindi dobbiamo imparare a non desiderare mai nulla di più, perché tutto ciò che noi possiamo desiderare in più non solo causerà sofferenza agli altri, perché verrà tolto a loro, ma soprattutto causerà sofferenza a noi, perché oltre al karma di aver preso agli altri, ci sarà anche il fatto che con più di quello che ci serve noi andremo contro le leggi di Dio, e questo naturalmente ci farà stare male. Questa canzone si intitola Remember Me. Si potrebbe, anzi la possiamo tranquillamente girare verso Krishna, Krishna che dice ricordami. Quindi il modo per rendere perfetta ogni attività è proprio quello di ricordare Krishna. Mettetevi, mettete Krishna nella vostra vita e la vostra vita diventerà sublime, diventerà meravigliosa, fantastica. Come vedete, non c'è bisogno di abbandonare l'attività che state facendo, a meno che la vostra attività magari sia direttamente collegata con l'uccisione degli animali, nel qual caso noi vi consigliamo vivamente di evitarla, di cambiare lavoro. Ma se la vostra attività è una semplice attività di ufficio, di negozio, cose di questo genere, allora potete continuare a fare questa attività e dedicarvi alla coscienza di Krishna. In pratica quello che noi vogliamo spiegare a tutti è che non bisogna rinunciare a delle cose per Krishna, ma bisogna semplicemente aggiungere Krishna alla propria vita. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Benissimo, allora siamo in tema di viaggi, viaggi, scoperte, avventure, mettersi alla prova, è l'uomo che si mette alla prova davanti alla natura. Naturalmente tutti quanti vedono anche se non diciamo ce l'hanno chiaro nella mente come concetto, però tutti quanti sentono che la manifestazione naturale, le bellezze della natura, tutti gli esseri viventi hanno qualcosa di veramente meraviglioso, diciamo pure di divino. Com'è possibile che tutto quello che circonda le bellezze della natura, tutte le varie forme di esseri viventi, che sono veramente un numero grandissimo, siano così dovute al caso, dovute a un Big Bang? Non è assolutamente possibile. Qualsiasi esperimento effettuato in questo senso non può dare che segni che non è possibile. Nessuna esplosione può creare un ordine così perfetto, delle cose così meravigliose. Nessuna esplosione può creare anche il più piccolo fiore, il più piccolo insetto. Nessun insieme di elementi chimici buttati lì, mischiati e stramischiati, può creare questo. Solamente lo sguardo di Dio, la mano di Dio può, in un marasma di elementi chimici, tirare fuori quello che si chiama la creazione materiale, dell'universo materiale. E l'uomo è in un misto di sfida verso Dio e anche in un misto chiaramente tra sfida e anche attrazione. Perché la nostra vera natura ogni tanto riemerge, anzi diciamo che quasi in tutte le cose, per non dire in tutte le cose, la nostra autentica natura fa sentire la sua parte, per quanto ricoperta e velata sia. Nella ricerca di eternità, nella ricerca di bellezza, nella ricerca di felicità, in tutto quello che implica queste ricerche, è la nostra vera natura che parla, perché noi siamo anime spirituali eterne, piene di conoscenza, di felicità. E allora continuiamo a sentire dallo Speciale Italia di Krishna Prema questa avventura tra i ghiacci che abbiamo già sentito in altre puntate di Fuori dal Tempo, che a parte la storia in sé dà molte idee, molti appoggi, molti spunti per commentare cosciente di Krishna. Il settimo giorno decidemmo di attaccare i 2000 metri che ci separavano dalla vetta. Tentiamo l'ascensione il giorno stesso con il minor carico possibile e con un deposito di viveri e materiali al primo terzo di strada. La via da seguire non è chiara, ma tutto va nel migliore dei modi. I contatti radio con il Basile ci permettono di tarare con precisione gli altimetri e fissare altitudini di riferimento per la discesa. Dopo aver raggiunto la vetta, tutta la parte nord dell'isola si copre di nuvole e la nostra discesa continua sotto la neve. Il vento non è turbolento, ma verso le 11, quando ho fatto ormai buio, ci troviamo immobilizzati a 1900 metri in una nebbia ghiacciata che riduce la visibilità a 15 metri. Siamo obbligati a preparare un bivacco in un crepaccio. La notte non sarà allegra. Intanto nel nostro bivacco organizziamo dei turni di guardia per cogliere il minimo segno di diminuzione della nebbia. 2 ore più tardi la massa delle nuvole scure si sposta un po', lasciando un piccolo varco che permette alla luce della luna di rischiarare un massiccio roccioso che subito si staglia in mezzo a questa distesa cotonosa e biancastra, senza il minimo rilievo. Siamo salvi, ci mancava solo 50 metri e 2 ore di marcia c'era il nostro deposito. Qualche giorno più tardi la prua di Basile fa rotta verso sud. Sarà buio fra poco e occorre assolutamente dar fondo all'ancora nella baia di Malkte, che ci è assolutamente sconosciuta. Basile, senza bolinando attraverso Royal Bay con un buon vento. 2 miglia a dritta individuiamo la spaccatura di Malk Harbour. Il mare intanto si gonfia rapidamente e raffiche violente staccano la cresta delle onde riempiendo l'area di spruzzi. Siamo tutti in coperta, impegnati alle manovre. 20 minuti più tardi tiriamo dai bordi con la velatura ridotta al minimo. Non ci riesce più a comunicare nemmeno gridando. Capiamo benissimo perché questi venti sono noti come i 50 urlanti. Questa è la definizione data all'inizio. Intanto a noi non ci sono scogli dappertutto e bisogna gettare l'ancora al più presto. Il buio è fitto. Accendiamo i fari del ponte per manovrare a prua. Diamo fondo dove secondo l'eco scandaglio ci sono 6 metri di profondità. Nonostante la potenza del proiettore non riusciamo a vedere al di là della parete di spruzzi scintillanti attraversata dal fascio di luce. Occorrerà vegliare tutta la notte con un piede sulla catena dell'ancora per accorgersi quanto questa cominciasse a dare il fondo. L'ancora deve però tenere a tutti i costi perché anche la via del largo ci è preclusa dagli iceberg. Usciti senza danno dall'avventura di Malk Harbour, siamo al termine della nostra scoperta di quest'isola meravigliosa. In effetti eravamo venuti in Georgia del Sud per le sue montagne e avevamo costruito una barca a vela perché questa resta ancora l'unico mezzo per essere autonomi a queste latitudini. Così, dopo aver pienamente onorato il nostro debito con le montagne della Georgia, ci siamo occupati un po' anche degli insoliti e numerosi abitatori di quest'isola. A Ushkin e Leith, antiche basi balenieri, più di 3.000 renne brucano l'unica erba dell'isola, il resto è completamente di ghiaccio, e vivono in una completa tranquillità. La fauna della Georgia è un vero paradiso di cui gli inglesi sono giustamente gelosi e che del resto non corre troppo rischi di essere insidiata. Dopo 4 mesi, Basile deve infine lasciare la Georgia del Sud. Passiamo 24 ore con l'ultima paura degli iceberg e lottiamo per evitare di metterci di traverso alle onde e di essere fatti rotolare come una bottiglia dalle spaventose onde dell'oceano australe. Una volta calmatesi il mare, Basile riprende la sua andatura da gran crociera che gli permetterà di raggiungere in breve tempo Città del Capo e poi l'Europa. La spedizione di Basile in Georgia del Sud è nata solo in funzione di se stessa, solo per il gusto estremo dell'avventura che ne animava i protagonisti che fin dall'inizio hanno creduto e poi verificato la bontà della semplice equazione. Mare più montagna uguale avventura totale. Questa canzone, il cantante sembra che dica Kali Yuga, Kali Yuga, Kali Yuga. Ed è questa proprio la dimensione incredibile della nostra era, dell'era in cui viviamo adesso, Kali Yuga. Questa era che dà l'illusione a tutte le persone di poter raggiungere una felicità attraverso la manipolazione sfrenata dell'energia materiale. Ma in realtà tutto questo è proprio un'illusione, non esiste, perché nessuno, e ripeto nessuno, in questa epoca di Kali Yuga, sfortunato, è diventato felice. così finisce questa avventura, una delle tante innumerevoli avventure che si sono ormai aggiunte alle altre negli album delle grandi esplorazioni, delle grandi, dei grandi uomini che hanno cercato di in qualche maniera di dominare la natura, cercando di sopravvivere in condizioni austere, diremo noi dal punto di vista vedico. Questo tipo di austerità, come abbiamo detto prima, è un'austerità così un po' inutile, se vogliamo, proprio perché alla fine di questa strada c'è il ritorno verso la normalità, il ritorno verso qualcosa che dalla quale abbiamo cercato di sfuggire prima e che inevitabilmente, puntualmente, invece si ripresenta davanti a noi come il problema quotidiano. Problema quotidiano perché? Perché finché noi cerchiamo di evadere la realtà in maniera così sconsiderata, in una maniera così priva di un piano preciso, di un disegno preciso, di una meta precisa, saremo costretti, quando siamo fortunati, a tornare al punto di partenza, perché molti non sono nemmeno tornati, sono rimasti per la strada, sono i famosi caduti, e cadere in quelle circostanze non è glorioso, come molti possono pensare, anche perché la prossima vita è determinata dalle azioni che noi facciamo in questa vita. Questa è la descrizione precisa della legge del karma, che è data dalle scritture vediche. E quindi trovarci in una condizione del genere, a lasciare il nostro corpo, vuol dire in un qualche modo rimanere attaccati a qualcuna di queste situazioni ambientali. E quindi che vuol dire forse rinascere o prendere una vita che ha a che fare con qualcuno di quegli elementi che fanno parte del paesaggio che a noi tanto ci ha ispirato a fare quell'impresa. Però, ahimè, bisogna stare molto attenti, perché questo vuol dire appunto rinascere, rinascere vuol dire crescere, invecchiare, ammalarsi e morire. Quindi lasciamo perdere tutto questo ciclo, cerchiamo di fermarlo, cerchiamo di arrivare alla verità in una maniera più semplice, una maniera più pratica anche, molto meno difficile da realizzare, ed è quella di diventare coscienti di crescere. Srila Prabhupada, nel suo libro della scienza della realizzazione spirituale, scrive: nessuno in questo mondo materiale desidera soffrire, eppure la sofferenza esiste e ci opprime. Essa giunge in attesa come un incendio nel bosco che divampa all'improvviso, senza che nessuno lo provochi. Nessuno vuole la guerra, ma i conflitti internazionali continuano ad agitare il mondo. Nessuno vuole la carestia, le epidemie, i conflitti, eppure si tratta dello stesso fenomeno che si verifica nel caso della foresta in fiamme. Come una pompa antincendio o qualche secchio d'acqua non serviranno a spegnere una foresta in fiamme, le vie dell'azione materiale non possono risolvere i problemi dell'esistenza. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Adesso, dopo che abbiamo sentito tante avventure, avventure così, sui ghiacci, nell'Africa, che più ne ha più ne metta, abbiamo avventure nello spazio, E adesso andiamo a sentire qualcosa sulle avventure, l'avventura quella con la A maiuscola, quella di cui parlavamo anche prima, quella fatta in coscienza di Krishna. I devoti di Krishna, veramente, se voi siete interessati, possono passare anche delle giornate intere a raccontarvi le loro avventure, così nell'ambito della diffusione della coscienza di Krishna. E sono tante, sono meravigliose, sono tutte piene di significato. E veramente si capisce alla fine di tutte queste storie che Krishna, Dio, la persona suprema, ha particolarmente a cuore l'andamento della vita dei suoi devoti. Naturalmente vogliamo sottolineare che Krishna, Dio, la persona suprema, come è detto anche nelle scritture, non è che fa differenze fra tutte le sue creature. E in effetti è anche vero che siamo tutti quanti devoti di Krishna, chi più, chi meno, chi l'ha dimenticato di più, chi l'ha dimenticato di meno. Però è vero che come un padre, pur amando tutti i suoi figli, e c'è anche a questo proposito la storia del figlior prodigo nelle scritture, nella Bibbia, pur amando tutti i suoi figli, quel figlio che, dopo magari aver lasciato la casa paterna, decide di tornare di sua spontanea volontà, è accettato in maniera più gioiosa e apparentemente sembrerebbe quasi che il padre lo ami più degli altri, magari più del figlio che si è sempre comportato bene. E i devoti di Krishna sono proprio quei figlioli prodighi che stanno, una volta che hanno capito, che hanno riallacciato il pensiero che noi siamo particelle infinitesimali di Dio Krishna, la persona suprema, e che in effetti l'unica persona a cui vale la pena prestare servizio è lui. A questo punto, visto che l'abbiamo capito, stiamo cercando di darci da fare il più possibile per chiedergli perdono per aver dimenticato per così tanto tempo tutto quello che lui ha fatto e fa per noi. Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. E naturalmente il più grande ringraziamento che possiamo fare, che possiamo dargli in questa età di Kali, è quello di ricordarlo sempre attraverso il suo santo nome. Bene, bene, bene, adesso passiamo ad ascoltare appunto questa avventura trascendentale della distribuzione della coscienza di Krishna, ecco come era nei primi passi qua in Italia. Naturalmente questa personalità, grande devoto, che ci racconterà come è successo l'entrata della coscienza di Krishna in Italia, è Somaka Maharaj. Lui era uno di quei pionieri. E abbiamo sentito che la coscienza di Krishna passò prima attraverso una piccolissima pensione e poi andò a Milano, in quella libreria, in quella non libreria, dove in un modo o nell'altro venne in contatto con Gora Krishna, Krishna Chaitanya, nomi che conosciamo. Nomi che adesso sono tutti aggiornati a nomi. Nomi coscienti di Krishna. Allora infatti erano Claudio Rocchi, tutti conoscevano, tutti conoscevamo Claudio Rocchi. E anche Giorgio Cerchetti. Com- comunque sentiamo come proseguì poi, attraverso l'aiuto anche di questi devoti, come proseguì la diffusione a macchia d'olio della coscienza di Krishna in Italia. Thank you. siamo arrivati a via Paolo Sarpi, appartamento di via Paolo Sarpi, dove si facevano delle feste la domenica, dove venivano le persone e dove incominciavano appunto a entrare in contatto con la coscienza di Krishna. Cosa succede dopo di via Paolo Sarpi? Da via Paolo Sarpi il primo grosso boom della coscienza di Krishna, perché si presenta in un programma organizzato, un programma organizzato sempre dal nostro carissimo amico Carlo Patrian, che organizza un festival, il Festival dello Yoga, e Gora Krishna, che era amico di tutte quelle persone, conosceva diciamo tutte quelle persone che in Milano appunto seguivano una qualcosa di alternativo alla società dei consumi, no? E quindi Gora Krishna, che conosceva Carlo Patrian, si avvicina a Carlo Patrian e così in questo Festival dello Yoga entrano anche a far parte gli Hare Krishna, cioè anche gli Hare Krishna partecipano a questo Festival dello Yoga. Festival dello Yoga dove appunto gli Hare Krishna partecipano in questo Festival dello Yoga, dove c'erano diverse stanzette o diversi localini dove appunto i vari gruppi presentavano il loro tecnico, la loro filosofia, avevamo una stanzetta anche noi, stanzetta che era sempre piena di persone dalla mattina alla sera, festival che è durato una giornata, dalla mattina fino alla sera tardi, sempre pieno, io lì seduto dalla mattina alla sera, la gente forse si chiedeva come fa quelli stare sempre lì seduto dalla mattina alla sera a parlare della coscienza di Krishna, a rispondere tutte le domande, a predicare tutte le persone che entravano dentro, e veramente anche lì la coscienza di Krishna ha fatto veramente, diciamo, in quel festival la parte del leone, perché la coscienza di Krishna, che è appunto la più alta forma di yoga, come dice Krishna nella Bhagavad Gita, yogi nama picharme sham madhyatena smaratmana, colui che mi ama e mi serve con amore e devozione è il più unito a me in yoga ed è il più alto di tutti gli yogi. Quindi appunto coscienza di Krishna, yoga più elevato perché ci mette in contatto con Krishna, ha fatto la parte da leone al Festival dello Yoga, dove tutti quanti sono passati per la stanzetta, per la stanza dedicata agli Hare Krishna, tutti quanti sono passati di lì, hanno ascoltato la filosofia della coscienza di Krishna, hanno preso il prasadam, anche lì c'era il prasadam, mi ricordo ancora dei deliziosi samosa, una preparazione indiana molto molto buona, come diceva la pubblicità del Govinda, che i cuochi del Govinda ci hanno alle spalle 5.000 anni di esperienza, quindi appunto al Govinda con 5.000 anni di esperienza, al Festival dello Yoga uguale, 5.000 anni di esperienza, avevano portato dei samosa deliziosi che io avevo cucinato nella cucina dell'appartamento di Gora Krishna in via Paolo Sarpi con l'aiuto di altri devoti e di devote, tutti lì che cucinavano, preparato delle deliziosi samosa, un alva, un dolce molto buono. Anche quello potete assaggiarlo, il Govinda, Quindi, appunto lì, a questo Festival dello Yoga, del delizioso prasadam che veniva distribuito a tutte le persone che si avvicinavano, una filosofia appunto anche lei spalleggiata da 5.000 anni, oltre 5.000 anni di esperienza, e quindi appunto coscienza di Krishna al Festival dello Yoga, che alla fine del festival, come conclusione, siamo saliti sul palco dove si erano avvicendati tutti i vari yogi a fare vedere le loro posizioni e le loro cose. Siamo arrivati su noi, ci siamo messi a cantare Hare Krishna, a ballare, e tutti quanti si sono messi a cantare. Molte persone nella sala si sono alzate in piedi, si sono messe a ballare con noi, ed è stata la trascendenza, cioè è stata veramente un'atmosfera spirituale, eh? Per quella volta il Festival dello Yoga era diventato veramente un Festival dello Yoga, perché c'era veramente un'atmosfera spirituale dove tutti cantavano le glorie di Dio, cantavano il santo nome di Dio e danzavano in estasi, in estasi. Naturalmente anche noi devoti eravamo in estasi, più ancora degli altri, nel vedere le persone in estasi, noi eravamo anche noi in estasi. Benissimo. Festival dello Yoga, eh? Dopo il Festival dello Yoga a Milano, la coscienza di Krishna ha un momento di, diciamo, a parte l'appartamento di via Paolo Sarpi che continuava a funzionare, un momento, come dire, di stasi, ci spostiamo nella cintura, ci spostiamo in provincia, ci spostiamo a Gallarate, dove apriamo un centro, Gallarate, e facciamo delle puntate milanesi tutti i sabati e le domeniche, soprattutto sabati, a cantare, senz'altro ci hanno visti, quanti di voi ci hanno visti, nei giardini del castello a cantare, al castello, per le vie del centro, a cantare. E qui i devoti di Krishna arrivavano a cantare e distribuire gli inviti per il centro di Gallarate, che incomincia a fare le feste domenicali e invitare moltissime persone. Naturalmente l'appartamento di via Paolo Sarpi continuava ancora. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Yatoktam Paryupasate Sradhadana Mat Parama Bhaktaste Tivame Priya. Colui che si impegna completamente e con fede in questa eterna via del servizio di devozione, facendo di me il fine ultimo, mi è infinitamente caro. Il festival dello yoga, appunto dopo il festival dello yoga, dicevo, piccola stasi in cui i devoti si presentano a Milano, al castello in generalmente i sabati per cantare, oppure per le vie del centro, sempre di sabato, per cantare e distribuire degli inviti per il centro di Gallarate. E i milanesi dicevano: ma qui a Milano come mai non ci state più, come mai non fate più? E noi in effetti a Milano cercavamo di fare qualcosa, ma appunto non si riusciva a trovare un posto. E quindi continuavamo a Gallarate, facciamo le discese, le calate, scendevamo su Milano a distribuire le riviste, a cantare, distribuire gli inviti, e poi risalivamo su a Gallarate, portando con noi le persone interessate. Poi oramai il tempo si avvicina, e senz'altro qualcuno di voi, anzi molti di voi oramai conoscono gli Hare Krishna. E perché li conoscono? Perché gli Hare Krishna sono ritornati a Milano in un modo prorompente, appunto in un modo prorompente, esattamente nell'82, nell'82, gli Hare Krishna tornano a Milano prorompentemente con Milano Suono, questo festival organizzato, sponsorizzato dal Comune di Milano, nel quale gli Hare Krishna partecipano in due modi: partecipano sia a Milano Suono con dei bravissimi musicisti indiani, nonché la Hare Krishna Band, questi bravissimi devoti che suonavano e cantavano Hare Krishna, naturalmente Hare Krishna, e poi anche appunto i musicisti indiani che appunto suonavano al parco. Dove era che suonavano i musicisti? Al castello, mi pare, sì, nel parco del castello, Nel parco del castello suonavano i musicisti, E lì c'erano anche tutti gli stand, Senz'altro vi ricordate di aver visto tutti i nostri stand al castello, tutti gli stand, gli audiovisivi, e c'erano i libri, c'era uno stand con i libri, e poi c'era uno stand con i bambini, bellissimi bambini dei devoti, poi c'era lo stand della boutique di artigianato indiano, e così i vari stand, c'era un'esposizione di fotografie che illustravano un po' le attività della coscienza di Krishna. Quindi festival prorompente, bellissimi stand indiani al castello, nel parco del castello, bellissimi stand indiani. E poi la cosa più vistosa, più bella, più attrattiva, più succulenta, diciamo, di tutto il festival, di tutto Milano Suono, era appunto la manifestazione Milano Cucina, che appunto rientrava in Milano Suono, ed era appunto Piazza Vetra, a Piazza Vetra, dove c'era anche il grande palco per la musica, per il rock, per il pop, per i grandissimi cantanti, e dalla parte opposta al palco c'era un turbinio di luci e di colori, con questi tendoni indiani coloratissimi, questi stand indiani coloratissimi. Qui c'erano appunto gli Hare Krishna con la cucina, questa cucina appunto che oggi è presente al Govinda, cucina con 5.000 anni alle spalle di esperienza, cucina che appunto si presenta lì a Piazza Vetra, si era presentata in questa manifestazione di Milano Suono, e si presentava lì la coscienza di Krishna con la sua cucina e bellissimi libri. Anche lì c'era un'esposizione di quadri, di dipinti, meravigliosi dipinti indiani, cioè non indiani ma rappresentanti la cultura dell'India, fatti da devoti di Krishna, di tutto il mondo, quadri meravigliosi di un stile chiamato appunto il neovedico, quadri bellissimi che hanno attratto l'attenzione di tutte le persone che sono intervenute a questa bellissima manifestazione. Ma quello che più ha attratto l'attenzione di tutti quanti è stato appunto la cucina. C'erano tre bellissimi tendoni che ricoprivano moltissimi tavoli e sedie che erano sempre affollati mezzogiorno e sera, affollati di persone fino a mezzanotte. C'era gente che veniva ancora a mangiare in Piazza Vetra. E poi c'era anche, lo ricordate, quel bellissimo camion lunghissimo, il tempio viaggiante, un bellissimo tempio in stile indiano, costruito all'interno di un camion, e senz'altro lo avete visitato, visto, molti di voi lo ricordano. Ben presto ritornerà ancora a Milano per altre manifestazioni. Questo camion oramai sta andando in giro appunto dall'82, pensate un po', dalla sua comparsa in Italia. È apparso per la prima volta in Italia a Milano, appunto in occasione di Milano Suono. Dall'82 il camion sta girando l'Italia e appunto ha subito delle trasformazioni, adesso è di un colore vivacissimo giallo con un bellissimo arcobaleno, quindi se vedete un camion con un arcobaleno con scritto Festival dell'India, Hare Krishna Festival dell'India, sapete che è arrivato da voi ancora una volta il meraviglioso Festival dell'India degli Hare Krishna, che appunto portano la cucina vegetariana vedica e portano questa meravigliosa filosofia della coscienza di Krishna. Quindi Piazza Vetra, un prorompente festival degli Hare Krishna, qui oramai è un movimento per la coscienza di Krishna ben sviluppato, ben organizzato, un festival veramente che i giornali hanno definito molto ben organizzato, specialmente la parte appunto di Piazza Vetra, la parte di qua, cioè la parte dove c'era il ristorante, tutti quanti hanno elogiato l'efficienza dei devoti di Krishna e la loro prontezza nel servire questo delizioso cibo. C'era anche una grande tenda nella quale tutte le sere c'erano dei canti, tutti i devoti che cantavano appunto sul palco, cantavano Hare Krishna, e tutta la gente che partecipava a questi canti ballando nella grande tenda rossa e blu, grande tenda rossa e blu che senz'altro tutti ricorderete. Bandiere, colori, appunto un'esplosione di colori, l'esplosione degli Hare Krishna in Piazza Vetra. Why? Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Krishna Krishna è un netre. Netre, come voi sapete, abbrasi non vuol dire dolcezza, una gioia, una felicità enorme. Una dolcezza, una felicità che non finisce mai. You don't have to do or die. Nella coscienza di Krishna è tutto da fare, tutto da fare per espandere questo movimento, per offrire la conoscenza spirituale a tutti. Sì, i devoti di Krishna sono fermamente convinti, attraverso le nostre esperienze, che la coscienza di Krishna funzioni per tutti. A parte il fatto che questa conoscenza spirituale ha avuto un grande successo da tempo immemorabile. Non ci sono limiti e confini. Provatela. La coscienza di Krishna. La coscienza di Dio. RKC è la sua radio. Suo chi è, vuol dire, la radio di Krishna. Chi è Dio? Il nome di Krishna vuol dire infinitamente affascinante. Noi non siamo come questi cantanti che cerca di imbrogliare, no? Noi non vogliamo do or die per imbrogliare la gente, questo non è lo scopo di vita umana, per imbrogliare gli altri, no? Sarebbe di farsi chiara la nostra identità, la nostra relazione con Dio. Questo è che uno deve fare, Questo è lo scopo della vita umana, la perfezione di questa esistenza. RKC qui. E voi chi siete? Siete ascoltatori fissi o ascoltatori casuali? A parte fate che noi sappiamo che il caso non esiste. Ci sono motivi ben precisi per uno si trova in un posto invece di in un altro. Chi ascolta RKC è già una persona speciale, una persona che vuole conoscere. Sì, si può conoscere tante cose, cose materiali, come fa questo, come fa l'altra cosa, ma se uno non sa chi è, da dove è venuto è più importante, dove sta andando, allora... Che serve tutte quelle altre informazioni? La conoscenza vedica vi offre informazioni utili, informazioni necessarie per vivere in questo modo, questo mondo, in un modo umano. Direi anche oltre umano, perché la conoscenza spirituale ci aiuta a trascendere i nostri istinti, i nostri sentimenti, la nostra mente, i sensi e il corpo. Sì, perché in questa vita abbiamo un corpo umano, ma questa non è neanche essa, non è la nostra vera identità. Tutto questo sembra interessante? Sì, RKC è una radio che parla della yoga, della meditazione, della reincarnazione. Parla di noi, spiriti, anime spirituali in un mondo materiale. È proprio questo che non va. Questo non è il nostro pianeta. Oh yeah, siamo nel posto sbagliato. Per questo motivo soffriamo così tanto. Come i pesci fuori dell'acqua. Siete interessati per ritornare alla vostra dimora originale? La dimora eccezionale? dove non c'è la nascita, la malattia e la vecchiaia, né la morte. Ti interessa? Rimanete in ascolto di RKC, la tua fonte inesorribile di informazione spirituale. È possibile per un DJ di salvarvi la vita? Beh, non è certamente possibile per un DJ comune, ma RKC non è un radio normale. Questa è una radio tutta spirituale. E noi siamo DJs, sì, certo. Speakers. Colui e con lei che parla. Ma parliamo di cose diverse. Non la stessa banalità. Come comprate un'onda. Comprate la felicità. Che illusione. Che imbroglio, che inganno. Non invece ragazzi, ne offre informazioni spirituali, un'informazione, diciamo, sensata, intelligente. Per offrirvi una felicità che non finisce mai. Quindi, può darsi, un DJ che cerca di diffondere messaggi di Dio, diffondere amore per Dio, può darsi, se voi ascoltate, può anche salvarvi la vita. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Dal tempo. Raja Vidya Raja Guyam Pavitram Ida Utamam Parthyaksha Vagaman Dharmyam Susukam Kartum Adyavyam. Cosa significa? Cosa significa questo verso che abbiamo letto? Questo verso sta proprio all'introduzione, anzi la prima pagina della Bhagavad Gita così com'è, tradotta e commentata da Srila Prabhupada. La traduzione a questo verso è la seguente. Questo sapere è il re fra tutte le scienze. Il segreto tra i segreti è la conoscenza più pura, e poiché ci fa realizzare direttamente la nostra vera identità, è la perfezione della religione. È eterno e si applica con gioia. Allora, questo sapere che culmina nel canto del Mahamantra Hare Krishna, il Mahamantra Hare Krishna, chi canta il Mahamantra Hare Krishna anche una sola volta è detto che ha già studiato tutte le scritture vediche. Comunque il sapere racchiuso nella Bhagavad Gita e nello Srimad Bhagavatam è tutto quello che ci serve per essere felici, perché felicità deriva dalla conoscenza e questa è l'unica vera conoscenza. Non crediamo di sapere già tutto quello che ci serve. Oppure l'altro errore è come minimo di potere attraverso la nostra intelligenza, i nostri sensi, arrivare a capire quello che ci serve per vivere bene. Non è così. Eppure avremmo dovuto avere diversi esempi che anche le persone che sono state reputate, magari nella storia, persone intelligenti, hanno sbagliato, hanno fatto grossi errori, a volte veramente catastrofici. E anche noi nella nostra vita abbiamo potuto vedere ormai diverse volte che certe cose che pensavamo che erano giuste, che era il giusto modo di fare, il giusto modo di agire, e poi magari ci siamo detti, magari se avessi fatto in un altro modo. Queste piccole cose servono a farci capire, se abbiamo quel minimo di umiltà, che siamo molto ma molto imperfetti. Quindi perché non sottometterci a una conoscenza superiore, direttamente emanata da Dio Krishna, la persona suprema? E così non faremo la figura del dottor Rana. Chi è questo dottor Rana? Andiamo a sentire questa bella storia da uno Special Italia di Manonath Das. Questa canzone quindi si chiama Dottor Frog, Dottor Ranocchio, Rana. Ecco, la rana è un animale molto particolare. Perché, dite voi? La rana ha l'abitudine di vivere in un piccolo pozzo, e il pozzo è molto profondo, non è molto largo tuttavia, è molto alto, e chi vive in quel pozzo si fa una certa quantità di esperienza, una certa quantità di si forma, ovvero sia una vita culturale, una vita intellettuale, dipendendo dall'informazione che sta ricevendo nel corso della sua vita. Chiaramente una rana che vive in un pozzo e che non conosce molto oltre questo pozzo non è che come informazione può avere granché, e quindi generalmente la sua vita culturale è molto molto limitata, e anche le sue esperienze e anche la sua capacità di vedere oltre quello che succede in questo pozzo. Bene, immaginate un attimino se in un pozzo vivessero due rane, una che vuole uscire fuori dal pozzo e l'altra invece che se ne vuole restare dentro il suo pozzo, tranquilla, beata delle sue convinzioni, della sua maniera di vivere. Immaginate anche se a un certo punto una di queste due rane, la rana appunto che se ne voleva uscire, se ne esce fuori e comincia a vagare per il mondo e comincia a vedere le città, comincia a vedere le nazioni, comincia a vedere le montagne, comincia a vedere i prati sconfinati, comincia a vedere tutto quello che è il mondo grande, il mondo veramente gigantesco, che è ben al di là dell'esperienza che una rana può avere nel piccolo pozzo. E quindi la quantità delle sue informazioni aumenta anche la sua vita interiore e culturale, fino a che arriva al giorno fatidico. Il giorno fatidico per una rana che era abituata a vivere nella pozzanghera in fondo al pozzo è quello che incontra l'oceano, il grande oceano sconfinato, pieno di acqua, così tanta acqua che non si può pesare, le cui gocce non possono essere contate, la cui estensione, inizio e fine, né profondità, nel suo aspetto tridimensionale non può essere assolutamente contato, se non a sommi capi. Beh, allora potete immaginare il grande stupore del rana che si trova davanti all'oceano. Può dire: quanta acqua, com'è grande, com'è immenso, quanta acqua c'è, e che grandezza, che elevazione, che profondità, che tutto. E quindi comincia a mettere in relazione l'oceano al suo piccolo pozzo dove viveva, e chiaramente il contatto diretto, l'esperienza diretta con questo oceano naturalmente gli procura quello che si chiama l'apertura intellettuale o culturale. Bene, allora immaginate un attimino se questa rana decide di andare a portare la buona novella all'altra rana, la rana che era rimasta nel fondo del pozzo, la rana che non voleva conoscere più di quello che aveva conosciuto nel suo pozzo, e quindi comincia a riprendere il viaggio di ritorno verso il pozzo dove viveva la sua rana ranocchia amica. Dopo grande camminare, la rana arriva al pozzo, si affaccia al pozzo e dice: «Ehi, ranocchio!» «Lo sai, caro ranocchio, che io ho viaggiato tutto il mondo immenso, grandissimo, con le sue montagne, i suoi prati, le sue campagne, le sue città, e a un certo punto sono arrivato all'oceano, un oceano grandissimo.» «Cos'è l'oceano?» dice Ranocchio in fondo al pozzo. «Beh, appunto, l'oceano non è altro che una immensa distesa di acqua.» Dice la rana esperta, la rana evoluta: «Si tratta di una... l'oceano è così grande che non te lo puoi neanche immaginare, tanta acqua c'è.» E la rana comincia a fare: «Ma quanto può essere grande? Non può essere molto più grande del mio pozzo?» L'altra rana risponde: ma no, che comparazioni sono queste? Ma figurati, l'oceano è molto, molto, molto, ma molto più grande del tuo pozzo.» Bene, allora la rana comincia a dire: «Come sarebbe a dire, io non posso arrivare alla comprensione.» «Certo che posso arrivare alla comprensione, forse quell'oceano è il doppio più grande del mio pozzo?» E l'altra rana dice: «Ma insomma, la vuoi smettere? Come puoi tu mai immaginare di poter comparare l'oceano al tuo pozzo? Per favore, non fare in questa maniera. Questa è una maniera completamente errata di arrivare alla conoscenza dell'oceano.» E la rana dice: «No, forse il doppio non è, forse è il triplo più grande del mio pozzo.» E l'altra rana dice: no, è molto più grande, molto più grande.» E la rana continuò: «È 4 volte più grande del mio pozzo.» No, molto di più, molto di più.» E la rana continuò, e man mano che diceva 4 volte, 5 volte, 10 volte, 20 volte più grande del mio pozzo, cominciava a allargare le braccia come per dire: «Grande così, è grande così.» E l'altra rana: no, di più, di più, di più.» E la rana continuava sempre di più a espandere le sue braccette e il suo petto, il suo torace, in tal maniera da cercare di arrivare a comprendere quanto l'oceano era grande in confronto al proprio pozzo. «100 volte, 200 volte, 300 volte, 1000 volte più grande del mio pozzo.» E continuando a espandere le sue braccia e il suo torace, la ranocchia, il dottor Ranocchio, non fece altro che semplicemente esplodere. Bene, allora le considerazioni della rana esperta, della rana che non aveva cercato di capire intellettualmente, ma della rana che aveva cercato di capire attraverso l'esperienza diretta, potete immaginare il dolore, ma d'altra parte la rana esperta sapeva benissimo che questo era inevitabile. Il dottor Ranocchio non avrebbe fatto altro che esplodere senza arrivare mai alla conclusione di quanto l'oceano era grande in confronto al suo piccolo pozzo. Bene, possiamo dire il morale della favola, quale sarebbe? Beh, il morale della favola è questo qui, che la rana esperta ha voluto sperimentare, vedere con i propri occhi, e in questa maniera è arrivata alla visione diretta, attraverso esperienza appunto diretta, di quanto un oceano possa essere grande. Ovvero se la spiritualità non può essere compresa intellettualmente soltanto, attenzione, non che non può essere compresa intellettualmente, ma non può essere compresa solo intellettualmente. L'intelletto è un mezzo, un aiuto, è un ausilio, ma non è mai la cosa in se stessa. Quindi Ranocchio, quell'esperto nel corso delle sue scorribande nel mondo, senz'altro avrà sentito parlare di questo oceano, però è voluto andarla a vedere, oltre che sentirne parlare, alla fine l'ha visto e ha capito quanto l'oceano può essere grande. Ma il professore speculatore e il professore che cerca la conoscenza attraverso una maniera strettamente, crudamente empirica, non può fare altro che cercare di comparare un qualcosa di grandissimo, di enorme, con qualcosa di così limitato come è appunto questo mondo materiale. Lo spirito è immensamente più grande, infatti è eterno, è pieno di conoscenza, è pieno di felicità, ed è molto molto più grande. Le qualità che compongono appunto questo mondo spirituale sono molto più ampie, profonde, elevate, con ogni aggettivo che gli si possa dare, in confronto alla materia. La materia è semplicemente energia e lo spirito è vita. La materia è inerte e lo spirito è vivo. La materia è temporanea nelle forme che prende, naturalmente, non nella sua essenza, ma nelle forme che acquista, mentre invece lo spirito e le forme che lo spirito acquista anche sono ambedue eterne. Bene, lo studioso empirico, lo studioso che vuole arrivare a una conoscenza con i suoi sensi, con il suo intelletto soltanto, con i mezzi materiali che dispone, ma che sono stati creati dai suoi sensi imperfetti stessi, e quindi imperfetti di per loro stessi anche, i mezzi sto parlando, non può fare altro che, nel tentativo di comparare lo spirito e la materia, semplicemente esplodere. Esplodere senza essere arrivato alla conclusione, senza essere arrivato alla conoscenza, e questo i Veda dicono che è semplicemente uno spreco di tempo della propria vita umana, che è il momento più prezioso della vita di una persona. Bene, allora ora sentiamo questa canzone, Dottor Frog, e poi magari possiamo parlare un pochettino ancora di più di questa canzone. Allora, questa canzone è cantata da Michael Cassidy, dall'album Take Me Back, appunto, Dottor Frog. Genuine PhD. He lived in a pool in a shallow well, just as happy as he could be. He measured the sides to the top of the sections that he could see, and then written books on the universe by thinking inductively. There's nothing beyond our inspection, he would say with finality. We accept a power in relativity. But then came landed within his tiny pool and spoke with great subtlety. I've come from the shore of the ocean in a land of infinity. The water there is inconceivably deep and exists for eternity. What's that you say, said the skull? I doubt your veracity. You say that this place is as big as my well. Is it one time or two times or three? And croaking, he puffed up his air sac in proportionate quantity. He kept inflating it bigger and bigger, expanding it arrogantly. Is it 10 times or 100 times? He said in anxiety. Only moments before his bubble burst, and he gave up his PhD. Couldn't understand what was outside as well. There was so much more to see. Well, Dr. Frog was a brilliant scholar, a little like you and me. He didn't believe anything was real except what he could see. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Avanti ancora, veloci come i riflessi. Urtare con la mano una caffettiera bollente, inciampare nella solita mattonella sconnessa, vedersi arrivare un moscerino a tutta velocità nell'occhio, sono piccoli incidenti che capitano quotidianamente. Vi sarete però resi conto che ancora prima di avvertire coscientemente quanto sta accadendo, la mano si sarà ritratta, il piede che incespica sarà passato al di là dell'ostacolo, quest'ultimo permettendo, e la palpebra avrà impedito il più delle volte al moscerino di entrare nell'occhio. Tutti questi incidenti mettono a repentaglio la vostra incolumità, ma i loro possibili effetti possono essere ovviati da meccanismi di difesa di rapidissima e automatismi di automatica accettazione. Automatica, cioè non volontaria, ovvero non provocata da un processo cosciente. Se mentre stiamo cadendo dovessimo infatti decidere con un ragionamento anche molto semplice di comandare volontariamente i muscoli interessati a contenere lo sbilanciamento, ebbene, è certo che questo ragionamento lo faremmo sempre a gambe all'aria. Veloci come i riflessi! Il nostro cervello, quindi, delega a qualcun altro il compito di una prima, immediata reazione agli stimoli esterni che si manifestano improvvisamente. Per capire che chi riceve questa delega e come funziona il meccanismo ad essa connessa, occorre fare una parentesi di natura neurofisiologica. Bene, noi la parentesi di natura neurofisiologica per il momento non la faremo, ma ci limiteremo molto sinteticamente a dire che una complessissima serie di stimoli e relazioni elettroneurofisiologiche si snoda lungo percorsi e cavi dei quali non sospettiamo nemmeno l'esistenza all'interno del nostro non soltanto corpo, ma anche del nostro tessuto, della nostra area cerebrale, di quella che gli scienziati moderni chiamano l'intelligenza. Gli scienziati moderni? Ma insomma, si fa per dire, comunque l'intelligenza, che ci dà la capacità appunto di difenderci con questi meccanismi automatici quasi inconsci, perlomeno a una soglia di coscienza che non è evidentemente quella superficiale che comandiamo direttamente, per difenderci. Periferia, centro, ok, periferia. È un percorso che sembra quasi quello di un pendolare, invece il pendolare qui non c'entra niente, la periferia è il piede che dice ho urtato contro un ostacolo, cervello, prendine atto. Il centro, che è il cervello, dice ok, invio immediatamente i comandi per fare fronte alla situazione. E la periferia, che è il piede, dice non solo, ma tutta una serie di muscoli della gamba e generale del corpo dicono ricevuto, agiamo di conseguenza. Ecco, con i tempi di una squadretta di quelle addestrate molto bene per problemi di pronto intervento in qualunque campo, in realtà questa periferia, centro-periferia, succede in meno di un attimo, perché se durasse più di un attimo il piede avrebbe già preso l'ostacolo e noi saremmo già caduti. Se si misurano i tempi che in effetti intercorrono tra l'applicazione dello stimolo piede contro l'ostacolo e la reazione motoria ad essa accoppiata, si riscontra che quest'ultima è ben più pronta di quella che un circuito nervoso come quello appena descritto potrebbe permettere. Il nostro organismo in effetti è concepito in maniera tale da poter abbassare i tempi di reazione agli stimoli, cortocircuitando a livello di stazione intermedia midollare la via sensitiva che li rileva per mezzo dei recettori sulla via motoria che agisce. Questo sembra poco più che una lingua antica o araba, non è che voglio dire niente agli arabi, anzi sono quelli che l'arabo lo comprendono benissimo. Ci sono addirittura quelli che l'arabo lo parlano a pochi anni, quelli che nascono lì. Quindi è assolutamente relativa questa considerazione, ma per noi italiani si fa per dire, qualcuno dice che è arabo per dire che non si capisce nulla. C'è poco da capire, o meglio c'è tutto da capire, anche se a volte ad alcuni sembra difficile. E questo discorso di come siamo fatti noi, chi siamo noi, come non sappiamo niente di come siamo fatti, a volte, anzi spesso non sappiamo nemmeno niente di chi siamo veramente, ci dà il limite preciso della nostra cosiddetta ignoranza. Allora, allo stesso modo come esistono questi meccanismi di difesa istintuale, istintiva, dovremmo essere capaci di rispolverare, tirare fuori dei meccanismi di difesa anche allo stesso modo, che però operano a livelli molto più profondi di coscienza. Per fare questo bisognerebbe prima di tutto sapere da che cosa dobbiamo difenderci. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Dobbiamo difenderci dal non sapere cosa si deve fare, prima di tutto, e dal non sapere cosa non si deve fare. Dobbiamo difenderci dal non avere purezza, dobbiamo difenderci dal non sapere cos'è una giusta condotta, dobbiamo difenderci dal non sapere essere sinceri. Dobbiamo difenderci dall'idea assurda, piena di orgoglio folle, che non esista Dio a dirigere questa realtà. Dobbiamo difenderci dalla spinta unica e trainante della stragrande maggioranza delle persone coinvolte a giocare su questo pianeta il gioco della lussuria. Dobbiamo difenderci dal compiere opere dannose e infami, che mirano a distruggere il mondo e l'uomo. Dobbiamo difenderci dall'arroganza, dall'orgoglio, dall'illusione. Dobbiamo difenderci dal fascino dell'effimero e capire che cosa è reale, cosa non finisce, cosa vale. Dobbiamo difenderci dall'insulsa reazione di capire che vogliamo dedicarci soltanto a quello che è il nostro interesse personale. Dobbiamo difenderci dalle attività malsane. Dobbiamo difenderci da centinaia e migliaia di desideri materiali, dalla collera, dal desiderio di accumulare denaro con mezzi illeciti. Dobbiamo difenderci dal dire e pensare oggi possiedo tutto, sono ricco, secondo i miei piani guadagnerò sempre di più, tutto questo è mio, ma domani avrò di più, sempre di più. Quell'uomo era un mio nemico e io l'ho ucciso, e quando sarà il momento ucciderò anche gli altri. sono il padrone di tutto. Sono io colui che gode di tutto. Sono perfetto, potente, sono felice. Sono il più ricco. Sono circondato dai migliori parenti. Non esiste nessuno più felice e potente di me. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Bene, bene. Allora, cerchiamo di rimanere dentro al tempo del nostro programma che sta per finire. Cerchiamo anche di non fare l'errore come il dottor Frog, il dottor Rana. Non crediamo di essere i più bravi, i più esperti, quelli che conosciamo tutto. Lo so, è che è la nostra natura quella di essere anime piene di conoscenza, è la nostra natura quella di essere eterni, però, qui siamo su un altro piano, siamo sul piano spirituale. Infatti se voi prendete tra le vostre mani i grandi classici dell'India e cominciate a sfogliarli e cominciate a leggerli, ecco, allora vi accorgerete che quella conoscenza che voi state leggendo, che vi sta arrivando attraverso quelle pagine, è una conoscenza che già vi appartiene. In realtà il più bello, il più potente, il più ricco e anche il più rinunciato, per quelli che pensano che la rinuncia, io sono il più rinunciato, guarda, ho lasciato qui, ho lasciato là, me ne sono andato via da tutti, mi sono ritirato in campagna. Ecco, allora anche il più rinunciato è sempre lui. Lui chi? Krishna. È sempre lui, lui L con la maiuscola, L maiuscola, lui Krishna Dio, la persona suprema. Benissimo, e allora dopo averci ricordato, esserci ricordati a tutti quanti, perché è una cosa che bisogna ricordarsi sempre. Dopo esserci ricordati che Dio Krishna è la persona suprema, io vi auguro una buona continuazione, si dice così, dei programmi di RKC e naturalmente vi lancio via etere un grande Hare Krishna. Hari Bol. Dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Voglia di Talk Radio? Ascolta anche tu, letteralmente, Radio Yoga Network. Insieme è meglio. Letteralmente Radio Yoga Network. www.letteralmente.info. Nostro indirizzo di posta elettronica: Radio Yoga Network @gmail.com. Buon ascolto.